la trasmissione domenicale di Vengo Anch'io. Ovviamente l'auguri a tutti i lavoratori, oggi si dovrebbe dire a tutti i disoccupati, forse ne pide più se dici disoccupati che lavoratori. Tutti i modi, oggi è la festa mondiale, perché è la giornata mondiale del lavoro, una giornata che nasce nel 1886 a Chicago, insomma, nasce da una tragedia del mondo del lavoro, cioè una fabbrica tessile va a fuoco, le operaie erano chiuse dentro dal padrone. No, Ettore, aspetta un attimo, no, più precise, questa nasce da una rivolta operaia di una fabbrica di macchine agricole, una certa McCormick. Ma è legata anche alla strage. Infatti c'è una strage, ci furono scontri e morti, furono poi incriminati 8 operai, 4 erano anarchici, altri di area socialista, che l'anno successivo, nel 1887, furono impiccati. Nel 1888 sta festa del primo maggio viene, diciamo, codificata, ma ecco, questa non è una festa, questa è una festa che nasce sul sangue dei lavoratori, che nasce sul sangue, sulle lotte dei lavoratori, degli operai. Nel 1889 l'Internazionale Socialista qui in Europa, a Parigi, ratificò il primo maggio, e nel 1991 inizia anche, diciamo, la ricorrenza del primo maggio in Italia. Proprio per finire la storia, nel 1924, sotto il fascismo, il primo maggio viene, diciamo, esautorato. La festa del lavoro viene abbinata alla festa del Natale di Roma, e questo dura fino al 1944. Nel 1945 viene ripristinato il primo maggio. Nel 1947, proprio perché questa qui bisogna, sta cosa va ricordata, cioè Portella della Ginestra, e durante un primo maggio la banda di Salvatore Giuliano spara su un corteo che si teneva a Portella della Ginestra, un corteo di 2000 lavoratori, di 2000, dove erano presenti contadini, popolani, eccetera, uccide 11 persone e ne ferisce 50. La prima strage di Stato. Quindi questa scia di sangue, no? Che anche durante la ricorrenza del primo maggio, che appunto nasce, diciamo, proprio sulle lotte dei lavoratori che rivendicavano l'orario di lavoro, le 8 ore, condizioni di vita e condizioni, diciamo, di salute migliori, insomma, è fatta da questo, è fatta da questa storia. E non è una ricorrenza, così come il 25 aprile, tanto, diciamo, per festeggiare qualcosa del passato. Oggi, giustamente, lo faremo attraverso pure una serie di sollecitazioni, una serie di corrispondenze, si incardina sulle lotte attuali, che partendo, avendo preso l'abbrivio da quel lontano 1886, continuano ancora. E appunto per questo avremo poi. Va bene, questo è il primo maggio. Il primo maggio, che era anche la giornata per la riduzione dell'orario di lavoro, le famose 6-8 ore, vi sembra un po', che insomma ci sono legate molte vicende intorno a questa data di giorno. Non è una data che normalmente viene definita la festa del lavoro, ma bensì un giorno di lotta, tant'è vero. Ci saranno moltissime manifestazioni oggi che hanno le caratteristiche adeguate, non sono i concerti che ci propinano nel primo maggio, non sono i concerti che fanno in giro per allietare, non so che cosa c'è da cantare e da divertirsi con questo clima di disperazione. Ci sono le iniziative che vanno, tipo Parigi, che da un mese c'è un popolo, giovani, in particolare giovani, si ribellano alla riforma del lavoro, cioè il nostro job act lo stanno propinando anche in Francia, puta caso socialista, anche quel governo, così per modo di dire, si chiamano socialisti, ma so le quinte colonne del capitale infiltrate nel sistema, e so quelle che fanno i danni peggiori, e lì stanno resistendo ormai da un mese. c'è un primo maggio alternativo di lotta che si tiene a Bagnoli per la protezione di quell'ambiente, perché la speculazione ci sta mettendo le mani, utilizzando il loro portavoce che è Renzi. Cercheremo di parlare di queste cose e poi di aprire un confronto. Di aprire un confronto con le generazioni giovanili. Oggi ce ne abbiamo due ospiti qui in radio, due giovani che ci vogliamo confrontare. Da anni che ci dicono che bisogna levare i diritti per estenderle pure ai giovani. I padri sono stati mutilati dai diritti che si erano conquistati con le lotte, con il sangue, quello che ricordava pure Serafino, da Portella da Ginestra in poi, tutto quello che è successo. Tanti morti ci sono stati per avere questi diritti. Anche la Costituzione nasce fondata sul lavoro, ma perché c'erano i lavoratori che si sono fatti partigiani, hanno preso le armi. Bene, ci hanno spiegato che bisognava ridurre troppi diritti ai padri per darle ai figli. Hanno abbassato gli stipendi ai padri per aiutare i figli. Oggi ci abbiamo ormai le istituzioni che ce lo dicono apertamente, come Tito Boeri, che dice: questa generazione l'avemmo bruciata, avevamo perso la generazione degli anni 80 e degli anni 90. I genitori sono senza, non hanno più diritti, hanno stipendi tagliati e via dicendo. Boh, la prima cosa che qui che ci abbiamo è che già siamo in collegamento con Parigi e ci facciamo raccontare quello che sta avvenendo lì a Parigi. Gli do la parola adesso a Giulia, che introduce questo collegamento con Parigi. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, come diceva Ettore, a Parigi è già dal 9 marzo che si stanno susseguendo una serie di scioperi, manifestazioni, iniziative, azioni di varia natura per evitare la mattanza della riforma del mercato del lavoro, che sostanzialmente è quella che noi in Italia stiamo vivendo già da diversi anni. E siamo in collegamento con Ornella, una compagna italiana che vive a Parigi da diversi anni e che nel pieno di queste manifestazioni, e oggi ci parlerà un po' del corteo libertario che tra una mezz'ora circa partirà da Parigi. E Ornella, ci senti? Sì, Giulia, vi sento. Ciao, allora come va? Sei già in piazza? Sono già in piazza e abbiamo già incrociato i carabinieri subito in metro, che hanno iniziato a fermare i compagni. Qui la situazione è bella tesa. Oggi, come hai detto bene tu, c'è il corteo che parte da Place des Fêtes, che è un quartiere popolare nel nord di Parigi, il classico corteo libertario di tutti, di ogni anno per il primo maggio, lanciato dalla Santé. E questo corteo questa volta poi raggiungerà Place de la Bastille, dove invece alle 3 del pomeriggio c'è il classico corteo con tutti i sindacati, il classico corteo del primo maggio, che invece quest'anno però si carica di altri contenuti. Qui ci sono anche tutti i liceali, i compagni che hanno chiamato ad andare al corteo del primo maggio per mettersi in testa al corteo e continuare a manifestare contro questa loi travail. Ci sono già, la piazza è già piena, ci sono già striscioni, che tipo di composizione? Ma in questo momento, come ti dicevo, in realtà oggi ci sono due appuntamenti, quello delle 11 il corteo libertario, quello delle 15 il corteo un po' classico dove ci sono un po' tutti. Quindi in realtà un po' di compagni si preparano più a venire a quello delle 3, che sarà il più corposo. Adesso in realtà mi hai chiamato, era appena arrivata, quindi non ho ancora visto se c'erano delle striscioni in realtà, però la composizione è quella degli anarchici libertari di Parigi, quindi come ti dicevo il sindacato La Santé, compagni vari di altri collettivi. Noi per esempio diffonderemo un volantino di comité d'azione, cioè di comitati di azione che si sono formati contro questa loi travail. Ovvero dei gruppi di compagni, sindacati, eccetera, per organizzare delle azioni durante questa mobilitazione, come dicevo, iniziata il 9 marzo, e quindi oggi sono già 2 mesi. Come pensate che proseguirà questa vertenza che almeno diciamo ci incoraggia a noi qui in Italia, perché ci hanno propinato la stessa riforma qualche anno fa in silenzio. La reazione dei giovani, insomma, non è che hanno avuto tanta reazione, tanta prontezza come è successo in Francia, perché questa operazione parte dalle scuole, dai licei, certo, e si estende all'università. Diciamo che i sindacati hanno dovuto rincorrere l'iniziativa dei giovani. Qui in Italia, certo, purtroppo questa cosa non è avvenuta e ne stiamo pagando le conseguenze. Tu la conosci bene, pure tu, essendo italiana, no? Conosci come stiamo messi qua per il lavoro. Oggi ci danno i dati che sono sempre più disperati e in più crescono i morti sul lavoro. Per dirti come ci hanno portato indietro, i francesi stanno reagendo. Non so dove andranno a parare alla fine, però una reazione c'è stata. Come pensi di proseguirà la, non solo la giornata, ma l'avvertenza, e che prospettive si dà? Allora, secondo me la roba molto particolare che è successa qui, come dicevi te prima, in realtà all'inizio i sindacati avevano lanciato una data il 31 marzo, invece poi erano stati i liceali e gli studenti a voler anticipare al 9 marzo. E quindi all'inizio il movimento era chiaramente portato dai liceali, che erano determinatissimi e fortissimi, e poi noi li abbiamo tutti seguiti, compagni, lavoratori, universitari, perché in realtà erano veramente i liceali che hanno portato la lotta all'inizio. Quello che in realtà poi è successo è che, certo, i contenuti che sono portati sono sempre contro la precarizzazione del lavoro. Io direi che la vera differenza rispetto all'Italia è anche che i licei, non voglio fare della sociologia da bancone, da bar, però un quindicenne italiano non hanno per forza lo stesso stile di vita. Quello che voglio dire è che ci sono tantissimi giovani in Francia che lavorano sin da giovani e che quindi si pongono le questioni. Poi ci sono certi contenuti che vengono portati qua che per noi in Italia sembrerebbero assurdi. Per esempio, uno degli slogan che era portato dai liceali era: non vale la pena svegliarsi al mattino per 1200 euro al mese, per farvi capire un po' la differenza. Quindi in realtà quello che succede in Francia, sicuramente c'è già della precarietà, però c'è uno stato sociale altissimo, e quindi in realtà è più una difesa di questo stato sociale che una denuncia a una precarietà già esistente. Questo in realtà, secondo me, si capisce tanto dal fatto che sicuramente la mobilitazione è forte, c'è tanta gente, ma non sta toccando le classi popolari in realtà, che sono già precarizzate, ovvero non hanno un lavoro fisso, hanno degli stipendi bassi e non si sentono toccati un granché dalle rivendicazioni che sono portate in piazza. Adesso poi c'è stato, come diceva appunto, all'inizio c'erano i liceali che l'hanno portata tantissimo. Adesso qui a Parigi erano le 2 settimane di vacanze, cioè a Parigi, poi in Francia ci sono 2 settimane di vacanze scolastiche che girano in tutta la Francia, quindi non sono le stesse date. Quindi a Parigi stiamo finendo queste 2 settimane di vacanza, quindi i liceali si erano un po' ritirati, non erano molto presenti in queste 2 ultime settimane, ma ci sono stati gli universitari, i compagni che hanno ripreso la mano. Come finirà? In realtà ci sono delle robe positive, per esempio sulla legge. Ci sono delle vertenze che sono già state annullate grazie alla mobilitazione che c'è stata, per esempio l'aumentazione delle ore da 8 a 10 sono state eliminate, oppure vi faccio qualche esempio: per le vacanze, rispetto ai giorni di congedo, per la morte di familiari, la nuova legge voleva annullare qualsiasi garanzia di perché in Francia si poteva chiedere 2 giorni di vacanza per la morte di un familiare. La nuova legge voleva cancellarlo e questa roba è stata ritirata grazie alla mobilitazione. O ancora, per i lavoratori notturni, ad oggi possono lavorare 40 ore a settimana per 3 mesi, la nuova legge voleva estenderlo a 4 mesi, anche questa roba è stata ritirata. Quindi in realtà piccole vittorie ci sono già. Se la legge passerà o meno, noi quello di cui abbiamo paura è che lo Stato in realtà ci faccia, come dire, ci tenga in ballo fino a luglio, e che poi ad agosto tutti vanno in vacanza e la roba un po' muoia. Questa è un po' la paura che abbiamo. Io ho letto delle cose, sembra che questo movimento, soprattutto fatto dai giovani, sta cercando delle relazioni anche con i lavoratori per ricostruire, rifar nascere un nuovo sindacato di classe più conflittuale. Che cosa c'è di vero? Perché è una storia che noi avevamo già sentito pure qui in Italia. Mm. Ma no, non so dove l'hai letto. Io in realtà quello che vedo è tutto un po', in realtà è un po' il contrario, nel senso nel 2006 c'era già stata qui in Francia una fortissima mobilitazione del CPE, che era per il contratto, quello riguardava veramente i giovani, era il primo contratto usciti dalla scuola. C'era stata una mobilitazione fortissima, c'era stata tra virgolette una vittoria. Cosa è successo? Che quella lotta lì era stata portata tantissimo dai sindacati e degli studenti, che però hanno fatto poi carriera politica, ovvero che oggi fanno parte del PS, che sarebbe il nostro PD, più o meno il nostro PD, cioè il Partito Socialista. E quindi in realtà quest'anno, dall'inizio, da quando la mobilitazione è partita, una grossissima parte degli studenti ha rifiutato qualsiasi sindacato studentesco che portasse la lotta. Quindi in realtà secondo me la forza che io vedo in piazza, che sta venendo in piazza da due mesi, è che le teste dei cortei che poi traducono quella che è la realtà della mobilitazione politica, non ci sono bandiere, sono delle teste di cortei autonomi, ed è questa in realtà la forza. Quindi io questa notizia di un nuovo sindacato, non l'ho sentita e non mi sembra di vederla. Poi magari c'è una parte di studenti che ci sta pensando, però ci sono stati un sacco di sostegno per i lavoratori, sono fatti i blocchi nelle stazioni, il blocco dell'autobus due giorni fa con i lavoratori dei trasporti pubblici, che sono state super partecipate, ma senza per forza il bisogno di una bandiera sindacale, ecco. In realtà secondo me ci stanno creando dei forti rapporti tra sindacati e studenti, ma senza il bisogno di poi rimetterci un nuovo cappello, ecco, formalizzato questa roba. Ciao, senti, sono un altro compagno della redazione, qui di Vengo Anch'io. Volevo chiederti, ciao, buongiorno, per te quanta probabilità c'è, che questo movimento, questa Nuit Debout, anche come è stata chiamata, come si è autodefinita, possa essere in qualche modo in futuro, breve, non so quanto, un'operazione anche di ceto politico, come abbiamo già visto per esempio in Spagna con Indignados, ben rappresentati adesso insomma da Podemos, che in qualche modo ha fatto di quelle giornate, di quelle piazze, un laboratorio politico, oppure Occupy Wall Street, di cui un po' si sono addirittura perse le tracce. Quanto secondo te questo può essere un'operazione di ceto politico? Sappiamo che insomma dentro quel laboratorio a Place de la République c'è il Front de Gauche, forse qualche altra piccola forza comunista, non lo so, te lo chiedo anche perché insomma io sono stato a Parigi e mi sembra che le organizzazioni politiche un po' latitano, quindi ecco, volevo sapere un po' qual è la tua impressione su questo punto. Secondo me c'è anche da fare una precisione, nel senso, quello che sta succedendo a Repubblica, personalmente ad esempio all'inizio mi sentivo assolutamente a disagio, perché era una piazza dove sembrava che il discorso politico bisognasse tutto ricominciarlo da zero, ovvero come se non avessimo nessuna base politica, che sia anche quella dell'antisessismo, dell'antirazzismo. All'inizio era un po' difficile capirne i contorni. Ad oggi secondo me quello che è importante è anche capire che la Piazza della Repubblica è importante, perché diventa un punto da cui sono state sperimentate delle pratiche di azione, soprattutto, ovvero le manifestazioni spontanee, quelle che qui in Francia vengono chiamate le manif sauvage, fatte da gente che non aveva probabilmente prima neanche fatto una manifestazione nella loro vita. Quindi queste robe vanno benissimo. Secondo me però non bisogna confondere la mobilitazione con quello che succede a Piazza della Repubblica. Non si sta giocando tutto lì, e io direi anche per fortuna, perché solo due giorni fa sono venuti i lavoratori a parlare sulla piazza, il che vuol dire che prima erano abbastanza assenti, a parte i lavoratori degli ospedali avevano già fatto delle riunioni in Piazza della Repubblica. Quindi secondo me è una roba, non bisogna confondere tutta la mobilitazione contro la legge del lavoro in Francia con Piazza della Repubblica. Detto questo, quanto diventerà un nuovo Podemos o un nuovo 5 Stelle, anche io mi sono chiesta, all'inizio avevo molta più paura, sinceramente credo che non ci siano neanche le forze in realtà, anche perché nelle assemblee generali tutti continuano a dirsi non voler leader, di non voler diventare un movimento formalizzato, quindi in realtà per ora non se ne parla, e secondo me ad un certo punto Piazza Repubblica si spegnerà per far accendere qualcos'altro, ecco. Anche perché la repressione poliziesca in questo momento, non so se si dice repressione poliziesca, però la repressione delle forze dell'ordine in questo momento è violentissima. Quindi la paura che un po' si ha è che questa piazza una certa venga spenta e si ricreerà qualcos'altro, ma ecco, io non vedo né i numeri che abbiamo visto a Madrid, secondo me non ci sono. quindi non, per fortuna, a me verrebbe da dire, per fortuna non diventerà il nuovo Movimento 5 Stelle. Anche se ho letto, mi pare, non mi ricordo se stamattina o ieri, che già sta emergendo qualche personaggio che vuole introdursi nella scena politica, quantomeno amministrativa, per poter insomma partecipare attivamente al dibattito politico. Quindi in realtà già sta emergendo qualche personaggio, certo. Come al solito, però vabbè, poi magari non è detto che quella sia a prescindere, ecco. Poi una roba anche abbastanza particolare secondo me in Francia è che c'è per esempio la figura del filosofo Lordon, che in questo momento sta prendendo un sacco spazio su questa roba della Nuit Debout. Secondo me è un po' la differenza dall'Italia, appunto, lì, qui hanno, sentono un po' il bisogno del filosofo che porta dei principi politici, però ecco, non penso che si candiderà, non so cosa, quindi. Ma invece, secondo me in questo momento non c'è la forza. Dimmi. Ma rispetto alle altre città francesi, perché abbiamo visto che l'altro ieri, insomma, le manifestazioni di giovedì ci sono state un po' in tutta la Francia e anche in altre città, tipo a Rennes è stata molto violenta, con addirittura un ragazzo che ha perso un orecchio e un occhio. Ci sono, vi parlate voi in Parigi con le altre città, vi parlate, siete in contatto, ci sono, non so, c'è una rete, sì. Dimmi. No, dico, ci domandiamo se c'è una rete tra le varie città francesi. Allora, la Nuit Debout, sì, nel senso, adesso poi quanto, io non mi sento in realtà facente forza parte della Nuit Debout, cioè nel senso ci andiamo a Plaza République, e come dicevo prima, tra l'altro ho dimenticato di dire questa roba, che nel senso i compagni hanno cercato anche di investire questa piazza portando degli infochiosk, dei volantini, insomma abbiamo cercato anche noi di portare i nostri contenuti. Quindi dal punto di vista nazionale Nuit Debout in realtà si è abbastanza strutturato e anche addirittura ha lanciato delle giornate internazionali per il 7 maggio, dove probabilmente verranno anche degli italiani, vedremo. Da un punto di vista più, diciamo, la componente anarchica, autonoma, eccetera, è difficile in Francia avere una rete nazionale, cioè bisogna un po' conoscere il movimento per capirlo, nel senso ci sono meno legami come ce li abbiamo in Italia. Detto ciò, delle robe si stanno creando e infatti una delle ricchezze anche di questo movimento è che ad un certo punto la rivendicazione forte è stata anche contro le violenze della polizia, che qui stanno raggiungendo un livello incredibile. E quindi la settimana scorsa, per esempio, noi siamo andati a Toulouse, dove c'era stato un festival di autodifesa popolare contro la, come dire, per la difesa autonoma e autogestita rispetto alle questioni giuridiche, rispetto alla violenza della polizia, rispetto al proteggersi in manifestazione. E quindi è stato questo primo incontro a Toulouse che vorrebbe diventare un incontro nazionale ripetuto. Quindi, diciamo, si stanno creando delle piccole reti, ma ecco, non al di là di quello, sono situazioni anche abbastanza gestite localmente, ma perché è specifico al movimento francese, ecco. In merito alla repressione, so che ci sono gli stessi problemi che abbiamo qua in Italia, in termini di divisione del corteo tra i brutti e i cattivi e i buoni e i pacifici, si sta risolvendo. Ma quello in realtà all'inizio vai, dimmi. In realtà all'inizio quella roba era stata abbastanza forte e un po' classica, cioè i cattivi manifestanti, i buoni manifestanti, però nel momento in cui per esempio i giovani liceali sono stati veramente massacrati dalle forze dell'ordine in corteo, in realtà la roba potentissima e che ci fa gioire qui in questo momento è che in realtà si sta diffondendo un rifiuto alla violenza della polizia da un po' da tutti. Poi ovviamente avrei sempre la CGT, che è il grande sindacato francese, che avrà un discorso che proteggerà sempre la sua parte del corteo rispetto alla testa, però anche i media ufficiali hanno iniziato a pubblicare articoli sulla violenza degli sbirri, che era troppo forte, o anche sul fatto che, perché il tentativo in realtà che si sta facendo, siccome è un movimento super informale in realtà, c'è questa testa di corteo che va all'affronto e tutta un'altra parte di gente che non per forza vuole andare all'affronto, ma che comunque vuole stare in testa nella parte di corteo autonomo, e quindi sono da due o tre manifestazioni, si sta cercando di organizzare, diciamo, come se fosse un cuscinetto, ecco, per stare fra i compagni e i sindacati e quindi fare presenza e un po' cercare di scardinare questa criminalizzazione del violento, ecco. E questa roba sta funzionando. Ieri, due giorni fa, c'è stato un su media ufficiale, c'è stato un articolo che appunto diceva Sì, ci sono, vabbè, anche lì, sì, ci sono quelli che in Francia si dice casseur, quelli che spaccano tutto, il black bloc, ma c'erano anche quelli che lo sostenevano senza essere violenti, quindi diciamo ci sono delle linee che si stanno muovendo e che sono super positive e che raramente le si è viste. E secondo me questo viene anche molto dal fatto che i liceali, i minori, si sono fatti così tanto reprimere che l'opinione pubblica si è smossa in qualche modo. Beh, del resto pure il video che hanno messo su Libération della sera di giovedì... Come? A Repubblica, dici? Esatto, di quando alle 1:30 di notte le guardie sono arrivate, hanno massacrato di botte tutti quanti per liberare la piazza. Lì era veramente, insomma, palese non solo la violenza ma anche la gratuità della violenza, perché lì, insomma, non stavate facendo veramente nulla. In realtà da quel punto di vista è anche una novità per noi, nel senso che in Francia di solito le guardie avevano sempre più una tattica da distanza, con i flashball, con i gas lacrimogeni, eccetera. Invece a sto giro stanno facendo proprio corpo a corpo e tirano anche i flashball a 1 metro di distanza, non più a 10, quindi insomma... Ma secondo te è legato all'età d'urgence o è proprio un cambiamento di atteggiamento dettato da altre motivazioni? Ma secondo me, come dire, quello che possiamo dedurre dall'età di urgenza è che, da una parte, perché c'è tutta questa forte reazione in Francia, secondo me viene anche da quello, la gente era oppressa, stanca, e cioè, anche per l'età di urgenza si sono fatte qualche manifestazione, ma in realtà è un movimento che non ha mai preso contro lo stato d'urgenza. E che quindi in questo momento, secondo me, trovano uno spazio di sfogo anche della repressione che ci hanno fatto e che continuano a farci, perché lo stato di urgenza è ancora in vigore e lo vogliono prolungare fino a luglio. E che era uno stato di urgenza che, per esempio, impediva qualsiasi manifestazione, quindi ha fatto sì che dalla nostra parte esplodesse una voglia di rivendicazione e di prendere spazio anche nello spazio pubblico. Dalla loro parte anche lì bisogna stare attenti a dire che la repressione giuridica della polizia c'è sempre stata ed esiste ancora. Dire che lo stato d'urgenza sarebbe rischioso, perché nel momento in cui lo stato d'urgenza viene tolto è come se sia meno pericoloso. In realtà no, quello che cambia lo stato d'urgenza sono, per esempio, come si dice in italiano, non mi ricordo più, le perquisizioni, grazie, alle 4 del mattino, quando invece normalmente devono essere fatte alle 6 del mattino. Cioè, ci sono delle piccole robe che vengono fuori dallo stato d'urgenza. Ma anche l'arresto preventivo, che è stato applicato a diversi compagni, no? L'arresto preventivo in realtà esiste già, magari viene dato con più facilità, ma ecco, nelle procedure giuridiche non c'è scritto che, visto lo stato d'urgenza, facciamo questo. Cioè, durante la coppia era successo così, perché c'erano dei compagni avuti una specie di domiciliali e quelli erano veramente dovuti allo stato d'urgenza. Per il momento non hanno ancora mobilizzato questa roba, ma stanno dando più che altro controlli giuridici, ovvero andare a firmare al commissariato una volta a settimana. Per il momento non hanno dato più di quello, non hanno ancora dato i domiciliari in attesa di processo. Senti, adesso il corteo si sta formando, partirà o è già partito lì quello della mattina? Ma io mi sono messo un po', come dire, in un angolo per parlarvi, quindi adesso ci sto tornando. Direi che per il momento vedo almeno un 300 persone, forse 500, non vedo tutto. E la polizia è in allerta, diciamo? Beh, la polizia era in allerta in metro, ha fermato 10 compagni dicendo che erano armati, si trattava di, come si dice, con degli striscioni, con dei bastoni, quindi siamo veramente a dei livelli esagerati di repressione, ecco. Bene, allora senti, facciamo una cosa. Tu tieni il telefono acceso verso l'una, insomma, prima dell'una. Proviamo a ricontattarti se sei disponibile e ci dici come si sta svolgendo il corteo. Va bene. Ti ringraziamo. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao. Allora, abbiamo sentito in Francia come si prepara. Ci sono queste due iniziative che partono, diciamo, uno adesso e un altro pomeriggio, che poi alla fine si fonde. Penso che ci saranno per tutta la Francia anche altre iniziative, come pure qui in Italia in molti posti si stanno facendo iniziative alternative. Fra poco sentiremo Torino, sentiremo Napoli. Beh, ricordiamo pure una cosa che... Dato che mi sono scordato dall'inizio e questo è essenziale che la radio lo faccia, ricordiamo pure che c'è la sottoscrizione alla radio la dobbiamo, noi normalmente lo facciamo sempre all'inizio, ma mi sono fatto prendere dalla cosa e me ne ero scordato, e vi ricordo il numero che è il 61 80 40 01, intestata Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185, Roma, oppure sottoscrivere attraverso il sito www.ondarossa.info e cliccare sostieni. Lì ci sono tutte le procedure per poter fare un bonifico a favore della radio, e si può fare anche un bonifico, diciamo, perpetuo, permanente, cioè fissano una somma da trattenere mensilmente ogni due mesi, e questa sarebbe la soluzione, se molti compagni adopererebbero questo, di un finanziamento pianificato per la radio. Sappiamo che già qualcuno ha cominciato a adoperare questo metodo, pertanto vi sollecitiamo, per chi è possibile, a fare questa cosa. Ricordo pure che oggi c'è un altro primo maggio alternativo, che è Forte Prenestino. Se facciamo in tempo sentiremo, ci metteremo in contatto anche lì. Oggi c'è a Forte Prenestino, si fanno 33 anni di primo maggio del non lavoro, un primo maggio alternativo in cui ci sono concerti, feste pure lì, però c'è pure molta, diciamo, anarchia, come posso definirlo, cioè il lavoro è visto in un altro modo, non come un fatto di soluzione dei problemi, ma il lavoro lo vedono proprio come lo chiamano pure i francesi, travailler, il travaglio, cioè un fatto che è lo sfruttamento, che la parola è quella, cioè no, il lavoro nobilita l'uomo, quello lo dicevano i nazisti. Noi pensiamo che il lavoro ci imbrutisce e ci limita le nostre libertà, perciò a Forte Prenestino c'è anche questo primo maggio alternativo. C'è quello di Napoli, stiamo di a Pomigliano e a Bagnoli, poi ovviamente c'è pure a Taranto, che è diventato un concertone pure quello, come quello di Roma, comincia a corrompersi anche quelle esperienze che nascevano in alternativa a Roma. No, voglio ricordare, Ettore, che ci sono tutta una serie di iniziative un po' in tutta Italia, in varie regioni, in varie città. Tra le più significative ci sono pure a Piacenza, i lavoratori della logistica manifestano. Sappiamo i lavoratori della logistica a quale livello di sfruttamento sono stati portati, e sappiamo cosa rivendicano: migliori condizioni di lavoro, migliori condizioni di vita, maggior tutela della salute, migliori orari. E quindi questa è una questione che si lega poi ad una questione un po' più generale, che riguarda non soltanto il settore della logistica, ma più in generale mi viene in mente una cosa: che non tutti oggi festeggiano il primo maggio. Ormai da un po' di tempo, per esempio, il settore del commercio non festeggia più, i lavoratori del settore del commercio, il primo maggio. Tutte, diciamo, i supermercati, le multinazionali proprietarie di negozi, di supermercati, tengono aperto in maniera continuativa, diciamo, il lavoro, la giornata lavorativa, la settimana lavorativa. Per esempio la catena Zara vedrà proprio in questi giorni, proprio oggi, in varie città, a Roma, Napoli, Bari, Milano, Torino, un po' dappertutto, una serie di manifestazioni, proprio perché è una di quelle catene che praticamente non rispetta più né il riposo settimanale, né le feste civili, credo neanche quelle religiose per molti versi. Quindi siamo di fronte a questa situazione, cioè anche questo primo maggio diventa momento di lotta, proprio perché si stanno introducendo tutta una serie di misure lesive delle libertà, dei diritti individuali e collettivi. Bene, allora guarda, noi mettiamo uno stacco musicale e ci prepariamo a fare un altro collegamento. Fratelli, su compagne, su venite in fitta schiera, sulla libera bandiera, confini scellerati, cancelliam dagli emisferi i nemici, gli stranieri. Non sono lungi ma sono qui, lo strumento del lavoro nelle mani dell'Etente. Spenga gli odi e fra le genti il diritto trionferà. Spenga gli odi e fra le genti il diritto trionferà. Il riscatto dell'amore dei suoi figli dopo sarà. O vivrò dell'amore o pugnando si morrà. O vivrò dell'amore o pugnando, pugnando si morrà. O vivrò dell'amore o pugnando, pugnando. La classe operaia accompagna l'attacco, Stato e padroni non la possono fermare, niente operai curvi più a lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare. Buon lavoro salariato, unitavi tutti gli operai, il comunismo è il nostro programma, con il partito conquistiamo il potere. Stato e padroni, fate attenzione, nasce il partito dell'insurrezione, potere operaio e rivoluzione. Nessuno, tutti o tutto o niente, è solo insieme che dobbiamo lottare. O i fucili o le catene, questa è la scelta che ci resta da fare. Allora siamo nuovamente in diretta, siamo in collegamento con Napoli, con Bagnoli. Cosa si sta preparando questa mattina a questa iniziativa per il primo maggio lì in quel territorio? Sì, buon primo maggio a tutti, prima di tutto la festa di tutti noi. Allora, siamo appena partiti da Piazzale Tecchio e devo dire che anche oggi abbiamo messo in campo un bellissimo corteo. Già il 25 aprile avevamo detto che Napoli si sta muovendo in maniera decisa contro il governo Renzi e contro tutto quello che sta facendo, e quindi anche oggi abbiamo sfruttato la giornata del primo maggio non solo per riportare i temi classici del primo maggio, quindi il diritto al lavoro per tutti, un lavorare meno che deve portare a lavorare tutti noi in maniera dignitosa, ma soprattutto stiamo portando una voce forte contro il governo Renzi, che proprio qui su Bagnoli sta tentando di mettere una delle proprio le mani addosso a Bagnoli. Poi è impressionante come in questi giorni tutta la campagna elettorale della Valente si stia basando sulla contrapposizione contro tutti i movimenti sociali. Basta pensare alle due occasioni in cui siamo andati a contestare la signora Valente ed entrambe le situazioni. Diciamo che la Valente è la candidata. Diciamo che la Valente è la candidata sindaco del PD. Sì, è la candidata sindaco del PD e non solo, ma è proprio una pedina di Renzi vera e propria. E infatti quando è venuto il signor Renzi a chiudere il patto per il Sud, anche lei era presente, non sappiamo in quale forma, perché lei è soltanto candidata sindaco, all'incontro con De Luca il prefetto. Quindi ormai Renzi sta dicendo: o votate la Valente, quindi avrete rapporti con me, oppure lasceremo Napoli, lasceremo il Sud e abbandoneremo il Sud. E questa è tutta una sua mossa per dire che tutte le politiche che invece stiamo portando dal basso con i territori sono completamente sbagliate. E questo noi non lo vogliamo. Noi non vogliamo un governo che commissaria Napoli, noi non vogliamo un governo che prendere le mani su tutto quello che invece si sta muovendo in maniera molto molto forte qui a Napoli, perché sappiamo benissimo che qui a Napoli ogni territorio è divisivo. Non per restare solo, ma tutto il sud, perché ieri c'è stato un bel comitato d'accoglienza a Reggio Calabria e a Palermo pure. Sì, poi lo nascondono le televisioni, però è stato violentemente contestato. Però non fanno finta di niente, non lo raccontano, che dove va l'unica cosa si deve muovere con esercito di poliziotti pure scelti fra i più incazzati per poterlo difendere. Ma infatti il piano che lui ha proposto è un piano per il sud, dicendo che il sud deve ripartire, bisogna dare finanziamenti agli imprenditori, ma sappiamo benissimo quali sono le politiche che vuole portare avanti Renzi. E quello che dicevi tu è importante: ogni città in cui va Renzi è militarizzata al massimo. Noi, per scherzare, abbiamo fatto un post su Facebook in cui abbiamo messo tutte le foto dei giorni in cui, in questi giorni, è stato Renzi nella vera città d'Italia. Basta pensare anche alle cariche che hanno subito i compagni a Pisa l'altro giorno, che sono state davvero violentissime. Ecco, questa è la nuova faccia del governo Renzi. Da rottamatore, forse è colui che deve essere rottamato da noi e dai nostri movimenti. Da rottamatore sociali. Di teste, forse. Perché esatto. L'unica cosa che stanno facendo, stanno rompendo le teste ai lavoratori che lo contestano. Altro esatto, che rottamata esatto. Politica. Esatto, ma infatti è assurdo come ormai la maschera sia stata tolta. Abbiamo capito benissimo da che parte sta il governo Renzi, non è dalla nostra. E oggi a Bagnoli è importante, perché sappiamo benissimo qual è la manovra che sta tentando di fare il governo Renzi: di dare questi territori a chi questi territori li ha inquinati, di dare agli imprenditori, di dare a coloro che vogliono speculare su questi territori, a coloro che vogliono costruire e farci i propri guadagni, senza poi sentire le volontà degli abitanti di Bagnoli, che in realtà forse sono gli unici che hanno il diritto di decidere su come deve essere amministrato il proprio territorio e che fine devono fare i grandissimi territori dell'Ilva, che anche là è un'assurdità, sono territori che sono stati completamente inquinati e da cui si aspetta da anni una bonifica di quei territori. Sono, non so se avete presente, ma sono davvero dei territori ampissimi, completamente distrutti e lasciati all'inquinamento e agli speculatori. Senti. Mi sentite? No, ti volevo chiedere questo, a beneficio pure di chi ci ascolta, per capire meglio. Dimmi. Secondo voi, secondo i cittadini, quali sono le priorità che voi indichereste per Bagnoli? Cioè, in questo momento, qual è la prima cosa da farsi? Allora, la prima cosa da farci, secondo noi, è prima di tutto convocare delle assemblee di quartiere per decidere insieme su cosa farci. In secondo luogo, vogliamo una bonifica che non sia alle spese della popolazione, ma sia una bonifica fatta dallo Stato e che rigeneri quei territori ormai inutilizzabili. E in secondo luogo decidere un piano comune d'azione. Potrebbe davvero diventare una zona dove la popolazione potrebbe creare zone pubbliche, zone culturali, zone per l'aggregazione, zone sportive. Si potrebbe davvero creare un polo cittadino in cui ci sia un'aggregazione e una socialità diversa. Potrebbe davvero diventare un posto della città, uno dei luoghi più importanti della città, per creare anche, sopperire a quei servizi sociali che mancano ogni giorno in questa città. E invece quello che vuole fare il governo Renzi è l'opposto: vuole creare palazzi, alberghi, vuole creare situazioni in cui riunisce a guadagnarci sono quelli che metteranno i soldi e investiranno i soldi per questi palazzi e li venderanno ai ricconi di turno. Quindi questa sono gli stessi personaggi che hanno inquinato Bagnoli. E certo, sono gli stessi personaggi che hanno inquinato Bagnoli, che adesso vogliono riprendersela e sfruttare i territori che già hanno sfruttato e già hanno inquinato. Questa è la cosa assurda. È un circolo vizioso che noi vogliamo rompere e vogliamo dimostrare, perché, come dicevi tu, nei giornali non si parla di questa cosa, si parla di Matteo Renzi che arriva a Napoli e dà i soldi, però non si capisce in che modo e a chi garantisce questi soldi. Questa è la cosa fondamentale. Bene, senti, adesso il corteo è già partito? È appena partito, adesso ci stiamo dirigendo verso il cuore dell'ex Italsider. Stiamo andando verso i territori appunto di cui abbiamo parlato fino adesso e stiamo dirigendoci verso quei territori per fare comunque, per dimostrare a tutti la volontà di di decidere noi, semplicemente questo. Mi sembra, ogni volta che lo ripeto, mi sembra quasi una cosa ovvia, no? Che chi abita su questi territori deve avere la voce su qual è il futuro dei propri territori, ma forse per altre persone non è così ovvia. E Val di Susa ce lo insegna, insomma. Esatto. Che... E infatti questa un supporto ai compagni della Val di Susa l'abbiamo avuto, e questo è molto importante, perché comunque anche in quella lotta si è visto come la volontà ferma dei cittadini e degli abitanti di quei posti stanno tentando di fermare uno scempio di quei territori, uno scempio inutile e uno scempio che va a garantire soltanto i guadagni delle solite persone. Il modello Napoli dimostra, in realtà, tutto quello che sta succedendo al sud, e come dicevi tu, si sta muovendo molto, dimostra come le assemblee popolari, le assemblee di quartiere, il potere dal basso, quelli sono gli unici modi in cui si può governare i territori, quelli sono gli unici modi che riescono a garantire anche la volontà di coloro che abitano su quei territori e di dare voce alle persone. Le mani dall'alto, i commissariamenti non sono assolutamente la risoluzione dei problemi di questi territori, che già da troppo tempo stanno ricevendo gli insulti e le offese delle persone che hanno ormai distrutto questi territori, e noi non vogliamo più queste cose, vogliamo un controllo totale dei nostri territori. Senti, in questa situazione come si sta muovendo il sindaco uscente De Magistris? Allora, è palese come il sindaco uscente De Magistris si sia posto in maniera forte a favore delle assemblee popolari che si stanno svolgendo sui quartieri, e si è posto in maniera forte contro il governo Renzi. E infatti non è molto strano che all'incontro col prefetto per il piano del sud era presente la Valente, che non è niente, non è né sindaco di Napoli né gli faceva propaganda elettorale. Esatto, era la Valente presente in quanto non sappiamo cosa, e De Magistris non c'era, e questa è una cosa assurda, cioè sul piano sud, sul piano che sta decidendo del futuro del sud, non era presente il sindaco della città più grande del sud Italia, e su questo De Magistris si è posto in maniera molto forte, ed è per questo che anche la Valente adesso si sta scagliando contro, perché ormai è palese come il governo Renzi sta cercando in tutti i modi di eliminare questa amministrazione e di eliminare ogni spiraglio di avanzamento della lotta. Bene, la polizia tranquilla, in ogni modo la manifestazione si sta svolgendo con tranquillità. No, è tranquillissima, sì. Davvero sono un sacco di bandiere, stiamo cantando, fortunatamente il tempo ci sta assistendo, anche se ha piovuto stamattina, quindi siamo molto contenti. Un po' anche il 25 aprile, all'inizio ha piovuto e poi il cielo si è aperto, quindi anche questo è un buon segno. Si rasserena, diciamo. Sì. Bene, a Renzi gli diciamo di stare sereno lui. Sì, di stare molto sereno e di starsi a casa anche lui, perché non importa che ogni volta che viene qua ci picchia. Può anche non venire, evitiamo di prendere manganellate. Benissimo, ti ringraziamo, auguri e buona festa. Grazie, e buona lotta soprattutto. Grazie compagno. Ciao, grazie. Adesso cercheremo pure il contatto con Torino, se riusciamo a rispondere. Non risponde? Se riusciamo a prenderlo. Se riusciamo a prenderlo, ma insistiamo su sta cosa, però io qui avrei cominciato a nascere, ci avevamo due giovani e io ho fatto la provocazione iniziale. No? In Italia è nata questa politica da un po' di tempo, che l'hanno portata avanti tutti, e l'arte l'hanno subita in silenzio, cioè eliminare diritti ai padri per darle ai figli. Ci hanno sempre propinato tutte queste controriforme, questi tagli, questi massacri, a poter dare un beneficio ai figli. Ai figli cosa gli è rimasto? Un lavoro precario, discontinuo, a basso reddito, no? Anche se abbiamo la generazione più diciamo scolarizzata della storia, perché ormai una laurea, se non ce n'hanno due, e alcune tre, e che però devono andare a fare i camerieri, se trovano devono andare a fare i babysitter, adesso vanno a portare pure i bobby cane, come si chiamano, insomma, tutti i lavori inventati senza prospettiva. Il dog sitter. Il dog sitter, insomma, voglio dire, questa è la prospettiva di questi giovani. Poi, in maniera formale e istituzionale, il presidente dell'INPS, INPS, era il mio ente, ci lavoravo. Perciò quando dico INPS viene. Beh, lui c'ha la calata calabra, capito? E ci ha detto in un modo tranquillo. Dice: noi con le politiche che sono state messe in campo abbiamo bruciato due generazioni, le generazioni degli anni 80 e la generazione degli anni 90. O troviamo un modo di invertire la rotta o queste generazioni sono perdute. I giovani cosa fanno? Cioè, come si vogliono prospettare davanti a questa prospettiva di essere buttati alla discarica, manco di indifferenziata, proprio al macero del profitto? Che reazione c'è? In Francia stanno reagendo, magari scomposti, magari ancora non sappiamo che prospettive potrebbe prendere quel movimento. Però è un messaggio, certo è, noi non ci vogliamo stare. I giovani, e questo è rivolto ai giovani qui, che pensate di fare? Quale lettura gli date? Per quale motivo? A me, io lo dico da anziano, no? Da vecchio, come mi chiamano, che mi sembra che sono più preoccupati a organizzarsi la serata del venerdì o del sabato del concerto, andare a fare l'happy hour alla sera e non a mettersi insieme a dire: ma che dobbiamo fare per il nostro futuro? Beh, insomma, i giovani poi siamo... L'ho detto in un modo crudo, però sì, spero... Sì, sì, provocatorio, certo. Beh, anzitutto, secondo me, bisogna anche considerare che forse la Francia è differente da noi, anche perché hanno questa fissa per la rivoluzione francese, che studiano tantissimo, e quindi secondo me loro sono comunque, portano sempre avanti questo ricordo anche nostalgico della rivoluzione francese, che però effettivamente li plasma nel carattere, e quindi loro hanno proprio la rivoluzione dentro. Cioè, per loro manifestare è una cosa come per noi può essere andare a fare l'aperitivo, per dire. Quindi loro ci credono tanto, ed è una cosa su cui, cioè, sono proprio differenti da noi. Allo stesso tempo però noi non è che ci siamo così zitti, eh? Insomma, il problema è che come alziamo la testa ci picchiano, ci criminalizzano, ci trattano come se fossimo appunto dei criminali, dei banditi, e quindi come alzi la testa te massacrano, ti emarginano intorno a te, e non è facile, non è assolutamente facile andare avanti. Quindi, boh, i giovani, cioè, poi ti parlo io che sto finendo il dottorato e già so che non ho assolutamente una prospettiva accademica futura, e quindi che faccio? Mi reinvento. Io penso che l'autogestione, quindi inventarsi il proprio lavoro, inventarsi le proprie competenze, coltivarle, condividendo le competenze, conoscenze con le altre persone, sia l'unica prospettiva, perché inserirsi in questo mercato, cioè l'Unione, ci hanno obbligato a entrare nell'Unione Europea, quindi in un sistema politico completamente inesistente, fondato sul nulla, per di più di matrice liberista, quindi capitalismo, profitto, eccetera. Evidentemente sta fallendo, non funziona, quindi noi l'unica cosa che possiamo fare è usciamone fuori, cioè non entriamo in questa roba, non entriamo in quel tipo di mercato del lavoro, inventiamocelo noi, facciamoci un'altra strada, quanto più autogestita possibile, quanto più orizzontale possibile, per evitare sta mattanza. Vabbè, io raccolgo la provocazione, diciamo, di Ettore. Scusa, io voglio dire, è una provocazione vera e propria, perché noi ci avevamo a che fare con molti giovani generosi che si battono, si piano la repressione, gli si spaccano la capoccia. Però quando io dico nella generalità, quella massa di giovani che non si muove, poi le avanguardie ci sono e noi ce le conosciamo, insomma, c'avevamo i nostri compagnucci che vengono spesso repressi pesantemente. Sì, ecco appunto, io raccolgo questa provocazione che insomma è giustissimo anche fare da questi microfoni, visto anche il filo diretto che si ha con gli ascoltatori e l'ascoltatrice, che eventualmente cercheremo anche di fare. Noi ricordiamo sempre il nostro numero 06 49 17 50 per chi voglia dare il suo contributo, però certo siamo di fronte a un che fare proprio di leniniana memoria qui, perché i giovani, poi ecco, io lo dico sinceramente, mi oppongo a questa retorica nazional popolare che vuole lo scontro generazionale, giovani vecchi, ecco insomma questa va in toto rifiutata, perché sappiamo che lo scontro è di classe e non certo di generazione, quindi da una parte i settantenni pensionati e dall'altra i giovani precari, non è assolutamente così. Poi ecco, io volevo mettere un dato in più che forse può essere anche un po' provocatorio nei confronti della mia stessa generazione, parlo da poco più che ventenne. Il problema anche dei nostri giovani, cioè il problema nostro, è che molto spesso molte fasce sociali sono garantite in qualche modo dai genitori, ma soprattutto anche dai nonni, e quindi da tutto quel welfare familiare, chiamiamolo così, che ci porta in qualche modo alla rassegnazione. E quindi sul mutuo c'è papà che garantisce, c'è nonno che ci dà qualche soldino, e quindi ecco, questo secondo me in qualche modo stoppa un possibile movimento sociale che possa nascere ed espandersi. Questo è sicuramente uno dei problemi. L'altro è una rassegnazione un po' generalizzata, diffusa, e che, come diceva prima la compagna prima di me, forse in Francia affrontano in un modo diverso, proprio anche storicamente c'è un portato diverso, c'è un portato civile, civico, morale, politico, che evidentemente li porta a sollevarsi in qualche modo un po' di più. Qui questa tradizione un po' l'abbiamo persa, ma ricordiamo anche che siamo sempre stati all'avanguardia, non so, penso agli anni 60 con la grande ondata dei giovani, l'antifascismo, Piazza Statuto, gli anni 70 sono grandi, grandissimi cicli di lotta. Italiano è molto di ispirazione per i francesi, cioè loro si ispirano tantissimo a noi, sia nelle modalità di contestare, sia a livello proprio di politico, di ragionamento. Quindi sì, la Francia insomma è molto più rivoltosa di noi, però poi paradossalmente loro guardano a noi. Sì, sì, questo è vero. Molto spesso quello che in Francia si pensa in Italia si fa, insomma, questo è un po' un detto che vabbè, una battuta. Vabbè, ci abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Ciao, mi sentite? Sì, ci sentiamo. Sì, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno ai compagni di studio. Sentite, niente, io soltanto dirvi che per quanto riguarda, come dire, dici la rivolta, eccetera, cioè considerando tutto quanto, il problema è che in ogni caso l'attacco iniziale, come dire, c'è stato. Non è che adesso ci si, come dire, si reagisce a qualcosa che insomma è avvenuto prima. Io non so adesso nel 95 quanti anni avevano i compagni che oggi si voltano, forse manco nemmeno erano nati, però in ogni caso da Treu in poi, anche precedentemente con alcune leggine che erano state infilate nei mezzi con i vari contratti eccetera eccetera, come dire, l'attacco era stato portato, e questa è una responsabilità che non avete voi, che abbiamo noi, cioè le persone che come me insomma hanno intorno ai 50 anni e che allora non li avevano, avevano l'età più o meno vostra. E questa, come dire, questa carenza, come dire, giusto appunto per non gettare la croce addosso a noi poi alla fine, perché non è che qui dobbiamo appunto frammentare niente, la cosa si ripete, si perpetra ormai da decenni. Ora, hanno come dire, uno stato di cose consolidato, o almeno, come dire, per quello che loro sono riusciti a fare lo hanno consolidato. Ha detto bene Ettore prima, l'ha riassunto in maniera efficace per quanto riguarda, come dire, le azioni fatte, gettando fumo negli occhi a tutti quanti. Il problema è che in ogni caso, come non siamo riusciti noi a fare massa critica e a fermarci completamente, io non so quanto siano in grado oggi da soli, giovani, meno giovani e così via, a fermare tutto questo, perché ovviamente, come dire, noi viviamo la società, tutti quanti noi, non è che viviamo, come dire, delle realtà continue ed esclusive come centri sociali, movimenti e così via. Cioè molti di noi la mattina si alzano alle 5, chi è fortunato, come dire, o fortunato insomma, diciamo fortunato, va a lavorare, torna a casa la sera quando è tardi, è stanchissimo, oggi magari se la prende soltanto appunto per ascoltare Onda Rossa e per riposarsi, mentre invece appunto quello che doveva essere fatto nella giornata odierna non è stato fatto. Quindi appunto questo è il problema, oggi doveva essere fatto qualcosa e questo qualcosa non è stato fatto. Ciao. Ciao, grazie per il contributo. Ecco, io non so adesso chi vuole rispondere, perché insomma qua ovviamente stiamo su temi molto, molto ampi. E... Valerio, qui viene posta una questione sulla quale io insomma in linea di massima concordo, perché se noi usiamo la provocazione per stimolare diciamo il dibattito con i giovani, questo ci sta tutta la cosa. Però è evidente che qui le responsabilità più pesanti di questo andazzo, di questo stato di cose, risalgono ai decenni precedenti, e le generazioni che oggi vanno dai 50 ai 70 anni se le devono assumere tutte una serie di responsabilità. La caduta della memoria storica, il non passaggio di questa memoria anche da parte di quei compagni che avevano militato negli anni 60-70 nelle organizzazioni politiche o di movimento, non c'è stato un sufficiente passaggio di questa memoria, che significa poi il ritorno alla memoria non significa cristallizzarsi su quella, ma significa usare quella memoria per attualizzare le situazioni presenti, significa guardare al passato per avere più chiaro il presente. C'è stato un intreccio di cose, anche le cose che diceva Valerio. E abbiamo creduto negli anni 80 soprattutto, a inizi degli anni 90, di stare e vivere nel paese di Bengodi, per cui sembrava tutto più facile, mentre invece le cose cominciavano diciamo a deteriorarsi non solo a livello dei conti pubblici ma proprio a livello delle relazioni sociali. Sono state diciamo l'avversario apportato di classe, ha portato avanti una incessante lotta contro determinati principi, contro determinate battaglie che avevano acquisito diritti nei decenni precedenti pur a costo del sangue. Abbiamo ricordato oggi quanto sangue si è sparso anche nei primi maggio in tutte le parti del mondo. Serafino, sì. Ci abbiamo in collegamento Torino. Benissimo. Noi allora... vediamo qui delle foto in cui si dice che al corteo di Torino comincia a esserci tensione, oltre alla pioggia ci sono pure i manganelli. Che ci dici tu che stai pronto, là? Pronto, ciao. Allora, è andata così, il corteo del primo maggio, uno spezzone sociale antagonista piuttosto denso, a un certo punto si arriva fino a Piazza Castello, poi c'è una strada che si chiama Via Roma che arriva a San Carlo. San Carlo è la piazza dei sindacati, ma un cordone di polizia ha fermato lo spezzone sociale proprio all'inizio di Via Roma, di questa strada pedonale fino ai negozi che porta direttamente alla piazza che era occupata dai sindacati. Ci sono state tensioni, il corteo richiedeva, la gente, i compagni richiedevano il corteo, la polizia ha caricato, ci sono state un paio di cariche, c'è stato un tira e molla che è durato parecchio tempo, poi alla fine la polizia si è aperta, probabilmente è stata anche una trattativa, i compagni sono entrati nella piazza, si sono presi il palco ormai deserto e hanno riempito Piazza San Carlo dei contenuti diversi da quelli dei sindacati, perché c'erano naturalmente i migranti, c'erano i sitopas, c'erano soprattutto le madri dei 30 compagni che sono stati costretti agli arresti domiciliari per la lotta contro il NOTAV, che hanno letto il comunicato, e quindi la piazza si è veramente riempita di contenuti completamente diversi. La piazza, quella occupata dai sindacati, che era veramente triste, semivuota, sembrava un Hyde Park Corner, perché ai lati c'erano dei comunisti di Rizzo, dall'altro c'erano altri sindacatini, una piazza tristissima che invece è stata rivitalizzata dai contenuti di questo spettore antagonista che era piuttosto forte, che si è peraltro fatto sentire anche durante la manifestazione del 25 aprile, perché è arrivato fino a occupare il palco e a riportare i contenuti che riguardavano il caso studio del 25 aprile, la resistenza al NOTAV e la vicenda dei 30 compagni che sono stati costretti agli domiciliari. I sindacati, insomma, quelli, i concertativi, i complici, sono scappati dai, dalla piazza. Sì, diciamo che sostanzialmente hanno abbandonato la piazza prima che arrivasse il corteo. D'altra parte c'era stata la gente che stava in piazza è rimasta? Beh, alcuni sì, altri sono andati via. Diciamo che la piazza è stata ripresa nuovamente dai compagni. C'è da dire che il PD sta gestendo, soprattutto in vista delle elezioni torinesi, la piazza in una maniera ben precisa insieme alla polizia, anche perché poi queste voci di dissenso rispetto al modello Torino non possono essere fatte veicolare a livello pubblico, perché appunto ci sono le elezioni tra neanche un mese, e quindi questo modello Torino viene imposto come un modello per tutta Italia, ma evidentemente è un modello che passa da tutte le parti, soprattutto è un modello di gestione sociale che fa comodo e che aiuta i poteri forti, che qui a Torino ormai sono ampiamente consolidati, di cui Fassino e il PD sono rappresentanti. Ecco, a proposito proprio di questo, citato le elezioni, proprio Fassino si è presentato, perché ricordiamo che il 25 aprile lui in qualche modo fu cacciato proprio dalla piazza. C'è stato, sì, si è fatto vivo qualche politico o hanno preferito disertare la piazza? Ma guarda, il 25 aprile Fassino e Chiamparino hanno rinunciato al loro intervento e sono andati via. Qua invece nella piazza del 1 maggio non c'erano interventi politici, c'era voluto il sindacato, ma il corteo comunque ha individuato in maniera esplicita la responsabilità del PD e della sua gestione della città in questo tentativo da parte della polizia di non far arrivare queste luci diverse all'interno della piazza che era occupata dal sindacato. Però di fatto ormai la piazza è piena di voci diverse, ci sono molte realtà tra le quali anche i lavoratori della rete di Venaria, che per esempio hanno scioperato perché volevano far lavorare il 1 maggio, ci stanno i rappresentanti dei lavoratori della logistica, sono scrittori anarchico, sono tanti soggetti. No, fischia un pochino il microfono, no, dico. Giacomo ha fatto bene a ricordare pure questa manifestazione lì al castello di Venaria, dove lì praticamente stanno in discussione i salari, gli orari di lavoro, il numero degli addetti, insomma praticamente monta, ecco, ad onta del 1 maggio, la festa del lavoro, monta invece un clima che è proprio contro il lavoro, nel senso più repressivo, nel senso di andare, si va incontro, io non vorrei usare parole esagerate, ma stiamo andando incontro soprattutto in alcuni settori a forme di lavoro che sono assimilabili a forme di neoschiavismo, dove i diritti vengono conculcati, i salari abbassati, insomma questa è una prospettiva. Ecco, quando poi si ritorna al discorso. Pronto Giacomo, ci sei? Sì, sì. Sempre, sì. No, volevo puntualizzare questa cosa, vai avanti. Sì, no, poi questo discorso qua sulla regressione dei diritti, insomma, è stato ben precisato anche dai vari interventi, delle varie realtà qui dell'area, che effettivamente si trovano in una condizione di difficoltà, si è parlato di una necessità dell'unificazione delle lotte, e poi si è fatto riferimento esplicito anche alla condizione del precariato, degli universitari, con riferimento a quello che sta succedendo in Francia, insomma, dove questa legge sul lavoro sta incontrando tutta una serie di opposizioni, per cui lo sciopero generale che c'è stato il 28 di aprile, a differenza di quello che invece è successo qua da noi, dove il suo PAC è passato, diciamo così, senza colpo ferire, e si è fatto riferimento esplicito anche al dramma di questa generazione degli anni 80, che ormai di fatto non ha né il lavoro adesso né una prospettiva pensionistica. Va bene Giacomo, allora noi ti salutiamo, eventualmente qua i microfoni sono aperti se dovesse succedere ancora qualcosa, ma insomma sì, da come dal racconto che ci hai fatto, esatto, la situazione è in buone mani comunque. Perfetto, va benissimo. Allora un buon primo maggio a te, insomma, e a Torino, alla Torino che lotta. Grazie, ciao, ciao. Ciao, a presto, ciao ciao. E al discorso questo qui, insomma, sui giovani, no? Che poi è un discorso che io ormai sento fare da 50 anni, se vedete vecchi documenti dei vari partiti di sinistra c'era sempre il capitolo che riguardava i giovani accanto al capitolo che riguardava le donne, è diventata quasi un rituale, però qui la questione, diciamo, diventa estremamente importante se è calata in un contesto reale. Cioè noi qui i giovani, dice, sai, sono poco reattivi, ma non parlo dei giovani nostri, quelli dei compagni attivi, parlo della massa dei giovani, sono poco attivi, ma certo vivono in condizioni, io qui, ripeto, guardate, non è che devo fare una sorta, diciamo, di bagno di purificazione, però faccio parte di una generazione che è arrivata ad un certo punto, non solo, come dicevo in precedenza, non ha trasmesso in maniera vivace e attenta a memoria del passato, ma non siamo stati in grado, diciamocelo francamente, Ettore, di dare una lettura aggiornata di quello che avveniva nei cambiamenti mondiali, di quello che avveniva nell'economia, nella finanza. Siamo rimasti in ritardo, siamo rimasti nella migliore delle ipotesi a lotte, diciamo, di contenimento, a lotte di resistenza, pur pregevoli in molti casi, ma non siamo stati capaci di elaborare con la nostra generazione, arrivata ad un certo punto, un'alternativa che potesse indicare a milioni di persone anche una strada diversa. Ora noi consegniamo sta patata bollente ai giovani. Certo, i giovani oggi ci hanno, come diceva il buon vecchio, ci hanno in molti casi solo da rompere le proprie catene, ed è evidente che sui giovani, in questa massa dei giovani, è chiaro che diventa la speranza di una ripresa, di una rivincita, però a condizioni che si chiariscano determinate cose. Cioè, questi vivono in una condizione, si è parlato del, entriamo poco, mettiamo i piedi nel piatto, il Jobs Act. Quando non sono precari o disoccupati, peggio ancora, stanno di fronte a misure lavorative che sono un obbrobrio. Io per esempio faccio un esempio che è una cosa che mi fa venire i brividi. E si era partiti nel 2012 con i famosi voucher. Furono emessi 500.000 voucher nel 2012 e dovevano riguardare lavori saltuari, occasionali, e dovevano, nelle intenzioni, essere, diciamo, una leva che ponesse una parte del lavoro nero, soprattutto quello nelle campagne, lo facesse salire alla ribalta. È avvenuto l'esatto contrario. Oggi, Ettore, nel 2016 stiamo all'emissione di 130 milioni di voucher. Significa che il giovane che va a lavorare al bar, in trattoria, in pizzeria, viene pagato con i voucher. Anche al cantiere, cioè diventa una situazione. Poi in molti casi non è solo il giovane, però diciamo che questa è una mannaia che colpisce soprattutto i giovani. Certo, qui c'è bisogno di una rivolta generalizzata, però bisogna che tutto il movimento si chiarisca alcuni parametri, che metta a punto l'analisi e trovi processi non così giustapposti, ma processi unitari sulle questioni, diciamo, incombenti. C'è un... Sì? No, mi verrebbe da rispondere che il problema, secondo me, è che in tutto ciò stiamo... Cioè, non possiamo più parlare d'Italia o peggio ancora di Roma, eccetera, dobbiamo parlare di Europa, se non addirittura di mondo, perché il problema è che le politiche sono globali, quindi noi da soli, noi giovani italiani da soli, non possiamo contrastare proprio niente, perché l'Unione Europea è troppo potente per noi, queste politiche sono dettate da là, quindi capirai, se noi già prima non avevamo alcun tipo di rappresentanza e di dialogo con i nostri, con questi qua che ci dovrebbero governare, figuriamoci con l'Unione Europea, che è ancora più distante, un'istituzione ancora più astratta, no? Quindi secondo me il problema è che le nuove generazioni, da un lato, non hanno ereditato dai genitori e nonché dai nonni, purtroppo, la voglia la costanza nel combattere. Dall'altro c'è pure da dire che adesso il mostro è diventato molto più grosso, certo. Quindi senza quell'eredità combatterlo è ancora più complicato. Tant'è che l'idea dei francesi di creare un movimento globale contro il mercato del lavoro, secondo me è un'idea che peccato che non sta montando, perché forse è l'unica direzione per ottenere qualcosa. Ma c'è una chiamata? Sì, abbiamo una chiamata da Piazza Indipendenza, dove c'è un presidio. Ti chiederei un po' di spiegare un po' le ragioni di questo presidio di adesso. Piazza Indipendenza, Roma. Ci senti? Pronto? Sì, ecco, sì, noi ti sentiamo. Ciao, buongiorno. Guarda, in realtà è un po' di malinconia sentendo quello che è stato detto finora da Parigi, da Bagnoli, da Torino, eccetera. Qui a Roma, a parte la grande kermesse di Piazza San Giovanni, qui avete fatto cenno, quelle poche cose forti, eccetera, c'è questa sorta di chiamata arrivata dal nord-est, con un appuntamento a Piazza Indipendenza e una annuncio di azioni, non si sa bene che tipo. Quello che ti posso dire qui dalla piazza, che a occhio e croce ci saranno 100, 150, 200 persone a essere generosi. Per la gran parte credo gente nel Veneto, che sono loro che hanno chiamato la cosa, di Roma non ci sono componenti, c'è uno striscione sull'occupazione dei rifugiati, che c'è la piazza indipendenza, che dice sono rifugiati non terroristi, perché pare che nei giorni precedenti sono stati come dire, messi sull'avviso dalle forze dell'ordine affinché non partecipassero, non credo neanche ci fossero le condizioni per partecipare. E invece tutta l'area qui, la stazione Termini, Piazza Indipendenza, Castro Vittorio, è militarizzata all'intero simile, ci sono veramente tutti, polizia, carabinieri, finanza, esercito e chissà cos'altro, che presidiano tutte le strade, tutti gli incroci, palmo a palmo. Quindi questo è abbastanza paradossale, per ora sicuramente silenziosa e mesta. Se poi scopre l'appuntamento alle 13, partire in corteo e andare in una zona dell'ambasciata turca, la situazione si dovesse incrementare in termini di numeri di presenza, non lo so prevedere. Però attualmente la fotografia è questa, un centinaio di persone abbondanti in piazza e tanta polizia. Bene, guarda, va bene, lasciamola nella tristezza, noi andiamo avanti con la cosa. Se ci dovrebbero essere novità, qualche cosa, eventualmente facci una chiamata. Noi di questa iniziativa di stamattina è stata giocata tutta all'esterno, a Roma poche persone sapevano che ci sarebbe stato questo presidio, insomma. Sì, sembra un po' una di queste annunci da tastiera più che cose reali, insomma, almeno a vederla adesso in questo momento. Va bene, buon proseguimento. Ciao. Ciao. Allora ricontinuiamo la nostra. No, ma ricontinuiamo perché come faceva. Parlavamo adesso un attimo fuori onda del fatto, insomma. Tra l'altro in Italia, oltre a tutte quelle brutte cose che attraverso il Jobs Act e altre misure che riguardano il lavoro, c'è anche un fatto, un dato di fondo. In Italia è l'unico paese insieme alla Grecia dove non c'è un reddito minimo garantito. Questo diventa un elemento. La mancanza di questa questione, Valerio, diventa un elemento drammatico, perché il giovane diventa completamente dipendente dalla propria famiglia, da tutte quelle cose che dicevi tu, da nonno, da nonna, dai regalie di mamma e papà. Questo qui non avviene in altri paesi e questo rende in una certa misura, non del tutto, un pochino più libero il giovane non solo di studiare, di fare la propria vita, ma anche di combattere. Sentiamo la telefonata, pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno e auguri. Buon primo maggio, sì, è sempre auguri si fa. Io non ci metterei un punto interrogativo su sto primo maggio, perché buon primo maggio, uno si interroga, ma sto primo maggio che senso c'ha, no? Oggi, diciamo che io, come molti sanno, lavoro con Trenitalia e sono un anziano ferroviere ormai, e mi sono sempre sentito, per tutti questi circa 40 anni di attività lavorativa, mi sono sempre sentito, per molti anni diciamo almeno, mi sono sentito un po' una persona trascurata nel senso del primo maggio, cioè uno che lavorava ai festivi, lavorava pure il primo maggio, il giorno della festa del lavoro, che era partita veramente come una giornata contro un lavoro salariato, mi sembra, insomma, o quantomeno per la riduzione della giornata lavorativa sociale. È diventata festa del lavoro, in taluni casi è stata addirittura mutuata in festa di San Giuseppe Artigiano, eccetera, eccetera, dal Vaticano e compagnia. Adesso mi sento un po' più in compagnia, perché per fortuna, tra virgolette, diciamo che molti altri lavoratori, anche il primo maggio, sono costretti a lavorare. Guardate, io sto parlando dalla finestra di casa, io abito dirimpetto a raccordo anulare, c'è questo popolo di panorama, e di fronte, dopo il raccordo anulare, c'è il più grande magazzino Carrefour della città, che è pieno di macchine, in piena attività, aperto pure il primo maggio, quindi siamo in compagnia dei cassiere e tutta una serie di operai e lavoratori che lavorano là dentro, e ovviamente insieme anche ai consumatori che vanno a consumare là dentro, imperterriti, nonostante che mi sembra che oggi comunque ci sia stato indetto anche uno sciopero, diciamo, a livello dei lavoratori del commercio da un paio di sindacati di base. Comunque, fatto sta che i lavoratori pure il primo maggio lavorano, questo è il concetto, no? noi che battevamo il nostro tempo negli anni 90, ve lo ricordate, con l'Onda Rossa Posse e compagnia, volevamo battere il tempo nostro, ma il tempo lo batte il capitalismo, il tempo del capitalismo purtroppo non c'ha pietà, è un tempo H24, 365 giorni all'anno, in barba a lavorare meno, lavorare tutti, lavorare 8 ore, e l'automazione che libera lavoro in questo sistema e compagnia, insomma senza rapporti di forza tutte queste chiacchiere restano appunto chiacchiere. Sui giovani che dire, la chiacchierata vostra è interessante, occorrerebbe approfondirla, spero che voi lo farete nelle prossime settimane con questa vostra benemerita trasmissione. Per quanto mi riguarda non c'è, cioè, categoria dei giovani non sono interessato, nel senso che, cioè, per me è una categoria che non esiste, è una categoria della sociologia, nel senso che ci sono giovani e giovani, cioè certo c'è una differenza d'età a livello biologico tra le persone, ma mi sembra che la differenza finisca lì, cioè non è che esista una differenza altra rispetto a quella biologica. I giovani, ci sono giovani per esempio lavoratori, i giovani operai, i giovani disoccupati, ci sono giovani borghesi, ci sono piccolo borghesi, ci sono rincoglioniti, c'è un po' di tutto, insomma. Quindi io eviterei di, come dire, fare propria l'ideologia dominante che raggruppa in categoria della sociologia quelle che so, per quanto ci riguarda, classi o strati delle classi sociali, così come non sono categorie, per esempio, cittadini, persone, addirittura il popolo non è una categoria, ve dirò di più, manco i poveri sono una categoria. Purtroppo questo termine viene utilizzato pure dalle parti nostre ultimamente, io non lo condivido e eviterei un uso di questo tipo di terminologie, no? È vero quello che diceva la giovane compagna presente in studio, che il welfare familiare oggi attenua le contraddizioni, come credo sia vero che anche il vecchio adagio dell'ideologia dominante che domina in tutta la società faccia il suo, insomma, no? Determinando appunto comportamenti che sono altri rispetto all'antagonismo, rispetto alla lotta o addirittura rispetto all'adesione alle idee, ai comportamenti della rivoluzione sociale, no? Ma io ci metterei un altro aspetto in questa nostra discussione che ci riguarda un po' più da vicino. E guardate, per introdurre quest'altro aspetto, per carità, ci metto 2 minuti, io vi parlo della mia vita, della mia esperienza, così parliamo di qualcosa che conosco bene sul serio. Io nella mia lunga ormai attività politica e sindacale, insomma sul posto del lavoro, ma non solo, ho avuto modo di conoscere ma forse centinaia di giovani. Centinaia di giovani si sono avvicinati così alle stesse attività che facevo io in passato o nel presente, si sono avvicinati alle idee del marxismo, si sono avvicinati alle idee della rivoluzione, si sono avvicinati quando erano giovanissimi e poi col tempo si sono allontanati progressivamente. E infatti mi sembra, insomma, che anche all'interno del cosiddetto movimento, o quantomeno delle organizzazioni del sindacalismo di base, eccetera eccetera, ci sia un salto generazionale tra giovanissimi e anziani, quelli cioè come noi intendo noi, io e voi, almeno un paio che state lì in studio, cioè manca i 30, noi siamo anni. Andati oltre, siamo pensionati, non so, voi siete i soliti estremisti, io sono ancora pure i nomi equilibrato, vabbè, insomma manca i 30-40 anni che dovrebbero essere l'ossatura di un movimento rivoluzionario oggi, no? Dei lavoratori che si muovono almeno nella prospettiva di una trasformazione reale di questa società, no? Ma manca perché finché, diciamo, l'adesione alla possibilità della trasformazione sociale rimane, come dire, una sorta di gioco collettivo, di appuntamento amicale in cui ci si vede all'interno del ghetto, dalla nicchia propria, per fare le cose che si fanno, insomma, in tutti questi luoghi che conosciamo e che sappiamo come si muovono, è facile, o relativamente facile, anche se poi il potere ci bastona e prendiamo appunto atto della repressione in atto e così via. Poi quando la vita, no, quella vera, quella del che ci scontra col lavoro, con la famiglia, con i figli, con le problematiche della salute eccetera, ci mette a prova sul serio, la domanda viene spontanea: ma ne vale la pena poi? C'è qualcosa per cui impegnarsi sul serio, qualcosa di prospettiva che ci dia un respiro forte, insomma, che alzi un po' la visione delle nostre cose, della nostra vita sul mondo e sulla possibilità di cambiarlo, punto interrogativo? Evidentemente la risposta è no, e questa risposta, insieme all'ideologia dominante, insieme al welfare familiare, probabilmente determina questa anestesia anche nel cosiddetto corpo giovanile, che abbiamo già detto che non essendo una categoria sociale sarebbe meglio, insomma, usarlo il meno possibile. Ecco, questa era un po' la mia risposta. Vorrei concludere con un ricordo di tanti anni fa, insomma, tanto per concludere un po' a fare il pecorino sta giornata, come si faceva una volta, che adesso non c'è più tempo, si lavora, no? E quindi al sud, prima avete intervistato un compagno napoletano che parlava dell'ennesimo corteo che si svolge a Napoli, e non ho capito bene se poi, insomma, c'entri qualcosa e la difesa anche della giunta dei magistris in tutto questo. Sarebbe interessante capirlo meglio. Vabbè, comunque, lasciamola in sospesa, sì, diciamo così, siamo buoni oggi. Tanti anni fa Lotta Continua al sud pubblicò, i primi anni 70, un giornale quotidiano per alcuni mesi che si intitolava "Mo che il tempo si avvicina". Era un giornale dedicato al sud, parlava delle rivolte del sud, in particolare di quelle dei dannati della terra, che erano dei, appunto, quelli che Lotta Continua definiva così, diciamo, i carcerati, i prigionieri in rivolta, no? Ecco, io con questo augurio, insomma, sperando che dal sud riparta una rivolta che rivolti un po' l'Italia e l'Europa, vi saluto e vi auguro buon primo maggio. Ciao. Ciao, grazie. Grazie, spazio, ciao. Grazie. Ciao. Bene, guarda, noi dovremmo pure, perché abbiamo un altro ospite che fino adesso è stato zitto, no? Tagliamo su questa cosa. Quando parliamo di categoria di giovani, noi la vediamo, io la vedo come una categoria da utilizzare come energie, voglia di essere rivoluzionario. A 20 anni si vuole cambiare il mondo, c'è una fantasia, c'hanno la forza di fare delle cose. Ci abbiamo un'altra telefonata, pronto? No, ma prima, buongiorno a tutti. Prima in tutti i modi, Vincenzo, qua ti vogliamo esprimere tutti quanti la piena solidarietà dell'ingiustizia che ha subito Mario, e a tutti quanti, diciamo, inutile ripetere le cose retoriche. Siamo con Mario e siamo con te. Grazie, grazie a voi, era, come dire, grande gratitudine che ci riguarda, ci accomuna, non mi fate emozionare. E volevo solo dire, prima che cambiate argomento, ovviamente, che esiste un primo maggio che non può essere manifestato né nella forma della lotta né nella forma della festa. Riguarda in particolare le compagini turche, i lavoratori turchi, i lavoratori curdi. Stamani è stato vietato l'ennesimo primo maggio a Istanbul, ad Ankara, ad Adana, un po' in tutta la Turchia, ma soprattutto a Diyarbakir, eccetera. Ma scenderanno in piazza domani, purtroppo sapremo, speriamo che non ci siano morti e gravi feriti, ma sicuramente la polizia tenterà di vietare tutto questo, nonostante i sindacati Kesk e Tersk sono tra i maggiori, come dire, sindacati che esistono e che non sono sindacati governativi, ovviamente. E alla stessa stregua, pensate, in Palestina oggi ci saranno manifestazioni nella Palestina occupata, ovviamente ci saranno anche a Gaza, quella a Gaza probabilmente saranno autorizzate da Hamas, ma nella Palestina occupata da Israele, come ogni primo maggio, verranno vietate, verranno caricate, eccetera eccetera. Ma i palestinesi sono un'altra popolazione indomita. Finisco per dire che sicuramente speriamo di non vedere morti a piazza Tahrir, perché in Egitto sicuramente verranno messe in campo dalle grandi compagini semiclandestine dei lavoratori egiziani, di cui purtroppo porta le stigmati il nostro compagno assassinato di recente, ovviamente, di cui l'Egitto non vuole pagare pegno, ovviamente, eccetera. E alla stessa stregua saranno vietate le manifestazioni un po' nel Nord Africa, ma in gran parte dell'Africa. Dimentico sicuramente una quantità di situazioni in giro per il mondo, ma ho voluto dare significanza di questo perché il primo maggio è nato sempre internazionalista e l'avete cominciato a dire a partire dalla storia del primo maggio. Buon primo maggio a tutti. Grazie anche a te, grazie. Ciao. Per questo ricordo del primo maggio internazionalista, così è, così deve essere. Allora, vogliamo fare una pausa musicale brevissima e poi introduciamo l'altro argomento. Allora, a questo proposito, visto che prima dicevamo che molto spesso si gioca in difesa, ecco, è ora magari di cominciare a giocare all'attacco. Loro sono i Tear Me Down, all'attacco. Allora all'attacco, ce lo dicono questo gruppo qui con molta energia, e noi cerchiamo anche con questo appuntamento domenicale di dare sponda all'attacco. Noi non è che passiamo, cambiamo argomento, vorremmo parlare un attimino, anche mo ci spiegano le cose, il famoso accordo che stanno per stringere Europa e Stati Uniti, il famoso TTIP. TTIP, vabbè, il TTIP, che è la liberalizzazione dei mercati, cioè si chiudono le frontiere, non si fanno muovere gli esseri umani, perché se no ci invadono, però aprono i mercati, e questo è un fatto veramente di una gravità inaudita, perché questo accordo prevede tutta una serie di operazioni a quale liberalizza tutto, e non ci saranno più diritti per i lavoratori, perché quello che si produce si può produrre ovunque e farlo circolare protetto dalle normative che prevede questo accordo, che è un accordo fatto da stati e gestito solo dalle multinazionali. Cioè l'accordo lo fanno gli stati e lo gestiscono le multinazionali. Noi facciamo sta finestra anche perché sabato prossimo a Roma si terrà una manifestazione nazionale, speriamo che sia grossa e partecipata e che la gente capisca l'importanza di essere presenti in questa piazza, perché ne vale il futuro proprio della nostra società, del nostro modo di vivere, del nostro modo di alimentarsi, nel nostro modo di avere salute. Cioè è legato a tutto il panorama, pertanto se il compagno ci può aiutare a capire meglio. Sì, eccomi qui, mi presento, sono Lucio, salve a tutti. Volevo ricordare questa importanza della manifestazione del 7 maggio prossimo, che in realtà viene osservata sia in Europa che negli Stati Uniti, perché in realtà è una serie di manifestazioni che si fanno luoghi, volta per volta, all'interno di questa rete di lotta contro il TTIP. Ricordo per esempio che quando Obama è venuto ad Amsterdam c'è stata la prima manifestazione, 23 aprile, poi ad Hannover in Germania e in altre località è stata una manifestazione estremamente grossa, addirittura ad Hannover si sono superate le 90.000 persone. Ricordiamo anche che 1.200 sindaci, presidenti di regioni, municipalità di tutta Europa hanno detto: noi nel mio territorio non voglio il TTIP. Si sono espresse in questa maniera più di 50 enti locali. Quanto poi si sarà coerenti, questo non lo so, ma intanto hanno sentito almeno il bisogno di dover, come dire, dire io non accetto. Tra le grosse cito assolutamente l'elenco incompleto: Milano, Brindisi, Livorno, Civitavecchia, Tricase nel Salento, Cuneo, le regioni di Abruzzo, Toscana, Puglia, Val d'Aosta e addirittura qualcuna di queste, come dire, realtà, come dire, locali verrà anche nella manifestazione del 7 maggio. Perché queste manifestazioni in questo momento? Perché praticamente con l'estate uno dei partner, gli Stati Uniti, saranno, come dire, presi dalla futura campagna elettorale, di cui adesso non ci addentriamo, ma sicuramente non si sa bene chi sarà favorevole e chi contro di chi diventerà presidente, e poi comunque oramai la campagna elettorale metterà un attimo le bocce ferme su tutta questa questione. Però proprio per questo si è tentato, come dire, di dare una accelerata. Ci sono stati, mentre Obama veniva qui in Europa, ci sono stati i negoziati, l'ennesimo, il 14° round di negoziato, ad aprile, adesso ad aprile, dal 25 al 29 a aprile. Attenzione, che sembra una cosa non connessa, ma il CETA, che è l'analogo, come dire, allora il TTIP, questo per spiegarsi, è un trattato fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, a differenza di altri trattati, con un ruolo abbastanza secondario e, come dire, condizionato dei singoli stati. Occhio! Quindi in realtà è un qualcosa in cui è stata data una delega a questa, come dire, attraverso anche la Commissione Europea. Quindi questi delegati stanno agendo per di più in maniera riservata. Allora, il TTIP è tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti, ma c'è un analogo trattato, il CETA, che è invece l'analogo fra la Comunità Europea e il Canada. Tant'è vero che, e questo mi preme rilevarlo, questi due trattati assieme sono stati detti la NATO del commercio. E non è che l'ha detto qualche soggetto antagonista. Hanno usato questa dizione un ambasciatore, un non so quale generale della NATO, e addirittura ai primissimi tempi, per far capire, sembra in uno dei primissimi incontri, perfino Hillary Clinton. Attenzione! Le barriere per le merci e si bloccano le persone. Barriere, però, attenzione, per merci che possano venire da altre realtà che vengono percepite come avversarie. Parlo dei paesi emergenti, parlo di altre realtà, quali sono quelle che stanno sorgendo nell'America Latina, e dove l'analogo trattato, il TPP invece, quello transpacifico, viene visto anche questo, in altre parole, come un qualcosa, non è una valutazione mia, geopolitica, per potersi mettere in contrasto e addirittura predominare su quelle aree politiche che dovessero sorgere in America Latina, alternative in Africa, oppure guidate da altre realtà quali la Cina, la Russia e l'India. Quindi in realtà è un'apertura totale delle merci a scapito dei diritti all'interno di quest'area euroatlantica, con crollo dei diritti. Ma nello stesso tempo, a differenza dei precedenti WTO, di cui si può dire tutto e il peggio, ma perlomeno portavano a pari responsabilità tutti gli stati, si stanno creando delle aree contrapposte. Lucio, scusa un attimo, ma possiamo dire questo, che se si determina, diciamo, se passasse questo trattato, si determina un dominio privato non solo da un punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista giuridico, politico, sociale, perché questo trattato va a interferire, mette in discussione la regolamentazione del lavoro, dei diritti e persino delle costituzioni, certo, degli stati. Certo. C'è una regolamentazione dei prodotti di vario genere, dai prodotti alimentari ai prodotti, alle merci di tutti i tipi, e c'è poi questa, vorrei che tutti soffermassi a beneficio degli ascoltatori su questa questione, una regolamentazione pure delle controversie. In caso di controversia, chi decide? Certo, certo. Allora, argomento. Qui si rischia di abbattere praticamente con un governo parallelo tutte quelle normative più o meno avanzate che ci sono state a tutela dei cibi, della salute, della privacy e dei diritti del lavoro. Oggi, primo maggio, magari entrerò più nel dettaglio di quello che sono i diritti del lavoro, ma anche della qualità dei prodotti e della qualità, certamente, di come vengono prodotti, certamente. Sì, assolutamente, anche a livello normativo si tende a superare tutto questo, nel senso che si concorderanno queste normative, ma praticamente al ribasso, cioè praticamente ogni normativa che non massimizza il profitto può essere oggetto di denuncia. Ecco quello appunto Serafino diceva, questi arbitrati paralleli alla giustizia ufficiale, dove ricordo che l'impresa può citare la Comunità Europea, i singoli stati e gli Stati Uniti, ma se io ricevo un danno, tipo per esempio lo sversamento e il disastro nel Golfo, voglio fare questo, un Seveso, io non posso accedere a questi tribunali paralleli. Lo posso fare, e lo trovo anche giusto, attraverso la giustizia nuova, nazionale, sovranazionale, istituzionale, con tutti i vari gradi di prima battuta corrispondenti all'appello, insomma, chiamato in diverse maniere. Cioè, io Stato, io collettività, quando sono danneggiato, mi rivolgo attraverso tutto l'iter delle giustizie già consolidate dalle istituzioni ufficiali. Chi invece fa questo senza appello, senza cassazione o equivalente sul fronte delle imprese, denuncia direttamente praticamente la mancanza di profitto, addirittura di profitto atteso. Voglio riportare, ce ne tanti, sono in certi casi decine di miliardi gli indennizi che vengono richiesti, ma per esempio sul lavoro è proprio paradigmatico quello che Veolia ha praticamente intentato contro il governo dell'Egitto quando si è preso l'appalto dei rifiuti e dei servizi, diciamo, di tutta l'igiene, diciamo così, della città del Cairo. Bene, dopo una serie di confronti, lotte dei lavoratori egiziani, il governo ha deciso di equiparare queste paghe, che sono lavoratori del settore privato, a quelli del settore pubblico. Bene, Veolia ha denunciato l'Egitto, perché questo praticamente è una diminuzione del profitto addirittura atteso. Io adesso non so cosa, poi volevo anche praticamente ricordare questo, i vari canali attraverso i quali... Praticamente ecco. Proprio diciamo... per chiudere su questa questione, cioè queste corti private previste eventualmente da questo trattato, stanno completamente al servizio del grande capitale e dei multinazionali. Sì, sì, sì. Stanno proprio, sono totalmente, diciamo. Loro garantiscono chiaramente che anche, come dire, lo Stato che viene si può difendere. Parliamoci chiaro, questi giudici sono poche decine. Vengono proprio dalle realtà commerciali che appunto tu citavi, non solo, ma molti di loro hanno anche incarichi, cioè c'è quella indipendenza di ruolo e, come dire, conflitto di interessi, che è una questione grossa, enorme, quando si va in questa, come dire, rosa ristretta di questo tribunale. Quindi è vero, nella sostanza è effettivamente un qualche cosa che è orientato. E poi ricordo, sono loro che possono fare causa mentre io debbo andare sulla, come dire, magistratura, per carità, anche giustamente, che è stata creata istituzionalmente negli stati confederali, nella Comunità Europea. Ecco, insomma, ecco. Io volevo ricollegandomi un po' a questo discorso, il problema anche di questi tribunali è che tutta questa follia dei trattati internazionali commerciali, da chi sono elaborati? Sono elaborati, a mio avviso, e mi sento di poterlo dire perché tra l'altro purtroppo sto in mezzo a questi matti, perché io studio economia, quindi io gli economisti li conosco veramente tanto bene, e veramente fidatevi, sono una manica di pazzi, completamente folli. Questi trattati internazionali vengono fondati su degli studi scientifici, tra l'altro, che partono dal presupposto che i prodotti sono tutti quanti uguali in qualsiasi parte del mondo. Quindi, siccome si dà per scontato che ovunque io produca questo microfono è uguale, non importa se è in India, in Cina, in Italia, in Francia, in quant'altro, allora l'obiettivo finale deve essere quello di ottenere quanto più profitto da quel prodotto, perché tanto è uguale, lo produci qua, lo produci là, è uguale, quindi noi dobbiamo ottenere la massimizzazione del profitto. Ora io dico, ma se tu mi parti da sto presupposto, ma di che stiamo a parlare? Cioè, state completamente fuori di testa. Quindi questo trattato, oltre a essere un danno complessivo per tutta l'umanità, è proprio gestito da persone che sono matte. Cioè, noi, massa critica, dobbiamo assolutamente bloccarlo in tutti i modi e far capire alla gente che non è così complicato da capire, perché è fondato su dei principi che stanno fuori dalla razionalità di qualsiasi persona normale. E sì. Quindi, insomma, il 7 sì. maggio dobbiamo essere quanti più possibile e non spaventarci, perché io, parlando con la gente, mi sono resa conto che spesso dicono: no, ma questa roba è complicata, io non la capisco. Non c'è niente di complicato. Loro ce lo rendono complicato perché ci mandano tutti questi numeretti, tutte queste formule, tutti questi dati che sembrano così a prima vista, ma complicati. Proprio i media non informano minimamente. E quando informano ne parlano bene. Minimale, sì, l'informazione c'è, ma è del tutto marginale proprio. No, non c'è l'informazione, anche perché i trattati che stanno facendo sono segreti. Esatto. Non è assolutamente niente. Qualche documento qualche volta è stato carpito in maniera, diciamo, sì, tipo WikiLeaks, tipo qualcuno che si è deciso, no? Da sta situazione. Praticamente, però, sono i fatti sono elementari. Nel momento in cui ognuno può chiedere il risarcimento dei danni, se eventualmente lo Stato cerca di applicare le leggi che c'ha. In Italia ci stanno certe normative che proteggono la cosa alimentare. Per esempio l'OGM. Ci invadono l'OGM, se l'Italia li blocca perché la legge italiana le vieta. Anche molti paesi europei. Il problema è anche ci fanno causa e dobbiamo risarcire i mancati guadagni di queste speculazioni, cioè questo è. Sì, sì. Ma questo stiamo parlando. La stessa cosa per i diritti, no? Dei lavoratori. Mm. Se i lavoratori vengono tutelati o protetti su certe normative, se questo produce meno profitto all'impresa, ci chiede i rimborsi. Esatto. E questi rimborsi non sono tribunali ufficiali, ma sono avvocati che fanno parte della stessa della stessa greppia, associazione fra di loro ufficiali, ma paralleli a quello che le, si mettano d'accordo e lo Stato però deve risarcire e non c'è possibilità legale di ricorrere ad altri, dovesse ad altri essere riconosciuto tribunali. Questo ecco, trattato cioè, questo ecco perché... è la cosa. Lucio, tu dicevi essendo il primo maggio ti volevi incentrare un po' l'attenzione proprio sulle cose che stava esatto. dicendo pure Ettore. Che ricadute c'ha sul lavoro, sui diritti dei lavoratori, esatto, tutta sta materia, esatto, sta facendo? Esatto. Intanto, proprio sulla qualità dei cibi, voglio ricordare anche che c'è un enorme, come dire, impiego di lavoro anche contadino dell'agricoltura e delle industrie di trasformazione connessa. Attenzione che questo livellamento che avviene di tutti questi prodotti farà, come dire, rendere non sostenibile praticamente tutta quella serie di prodotti che stanno vivendo e riescono. È vero che hanno considerato, come dire, prodotti da proteggere, come dire, alcuni prodotti tipici italiani, ma è una elite, tra l'altro direi proprio veramente elitario, prodotti magnifici ma estremamente ristretti, praticamente i 9 decimi di tutta la nostra ricchezza agricola alimentare rischia praticamente di essere, come dire, abbattuta da questa cosa al ribasso che è fatta anche attraverso proprio questa, come dire, livellamento verso il basso, che non è una frase retorica, è proprio vero. Mi spiego, da noi c'è il principio di precauzione, per cui finché non si dimostra in positivo che un nuovo prodotto non rende dannoso anche potenzialmente qualche cosa, praticamente non è messo, mentre invece il principio di precauzione sull'altra fonda dell'Atlantico non esiste. È a carico tuo se vuoi andare a fare questo. Allora il legame che voglio dire è questo enorme impatto praticamente sull'agricoltura. Ecco, non lo sto dicendo solo moltissimi studi. Ma sai, c'è pure l'agricoltura. L'altro fatto, l'Italia è conosciuta per le tipicità dei prodotti. Esatto, esatto. E no, parmigiano tranquillamente lo possono fare nelle praterie americane. Sì. Marcallo parmigiano, magari reggiano pure, e lo immettono nel mercato. Se qualcuno gli impedisce l'operazione, quelli chiedono risarcimento. La libertà di ogni forma speculativa è totale. Ed è chiara la caduta sull'occupazione. È chiaro, è evidente. Già stanno oggi in difficoltà gli agricoltori con TTIP. Finisce proprio questo tipo, eccetera, la totalità. Ci sarà una minoranza più eletta di agricoltura che andrà benissimo, ma ci sarà invece globale una forte perdita su tutte queste ricchezze anche lungo il territorio. La minoranza più che altro saranno la grande distribuzione, cioè la grande distribuzione che anche venderà, qualche prodotto, ma di questi sì. Ma nel momento in cui non c'è più l'obbligo di etichettatura e quindi di spiegare da dove viene, come è stato prodotto, con quali input è stato prodotto un certo bene, cioè viene da sé che sarà la grande identificati alcuni prodotti, ma sono pochissimi. Rimarrà una nicchia dei prodotti d'altissima qualità, esatto, che sarà riservata ad una nicchia di ricconi. Di ricconi. Elitario, esatto. che riguarda. Allora, vabbè, diciamo ci che sono altri meccanismi che ce ne saranno altre occasioni pure per intervenire su questo tema. Sicuramente se ne parlerà pure in settimana. Insomma, però di fatto è che sabato prossimo, a che ora è? La manifestazione alle 15, ecco, alle 15 da partire da piazza, diciamo, piazza della Repubblica, detta a Roma piazza Esedra, perché la conosciamo più che così. Si arriverà a San Giovanni. Non è più Piazza del Popolo. Non è più Piazza del Popolo per i traffici, così loro. Per no? le adesioni. Per non disturbare i bottegai, insomma. Ecco, no, però insomma, no, sembra anche che. Penso che San Giovanni, essendo una piazza grossa, si prevede pure delle adesioni, insomma, importanti. Esatto. Ecco, diciamo che questa manifestazione, diciamo, è all'avvio, forse la prima. Sì. Che si dà visibilità a questo tema, perché fino adesso... Ma ce n'è stata una anche a dicembre, però diciamo... E diciamo era più addetta ai lavori, ai comitati che si sono costituiti... La prima in Italia, attenzione, perché in Europa e in America ci sono già state. La prima in Italia, perché l'Europa so più di una volta è anche abbastanza determinate su questa situazione. Io mi auguro che Londra, sabato arrivano pure i trattori, no? Che vedremo che controllano questi cosi, che tutti quanti sanno che quella è una giornata che riguarda loro, cioè tutti questi agricoltori che ogni tanto assieme al ministro fanno i blocchi stradali per vedere i prodotti taroccati che vengono in Italia e via dicendo. Quella è la giornata che quelle associazioni dovrebbero stare in piazza. Sull'occupazione volevo, è stato ricordato da tutti noi questo, il crollo dei servizi pubblici e quindi le clausole sociali, questo è un problema anche negli Stati Uniti, non solo in Europa, e quindi le economie locali che non vengono più tutelate, e poi praticamente ricordare anche il condizionamento sulle normative, non solo coi tribunali, ma anche con quella che è chiamata cooperazione normativa, e addirittura ne è stato inventato negli ultimi giorni il good regulatory practices, le buone pratiche di regolamentazione, cioè un monitoraggio addirittura di quello che i governi fanno. Praticamente siamo sotto osservazione nel poter produrre un'attività legislativa. Questo è la Spectre proprio. Sì, sì, esatto. James Bond e cosa avevano. No, noi speriamo che questa cosa, insomma, prenda abbastanza piega, proprio diciamo. Damoci un attimino di ottimismo, anche se in Italia è in ritardo alle mobilitazioni. Noi sappiamo che in altri stati, compresi gli Stati Uniti, su questa cosa si stanno mobilitando e cercare di... Hanno rallentato il calendario, di rallentare, dovrà essere concluso e di impedire che questa operazione entri in porto. Serve scendere in piazza. E come? Perciò l'appuntamento è questo. Bene. Noi... Più che altro diamoci una svegliata, nel senso cominciamo a starci, perché ripeto, questa è una cosa, come diciamo prima, cioè gli argomenti della prima parte della trasmissione sono ben collegati agli argomenti della seconda parte, perché giovani e non giovani, insomma tutte le classi, questo argomento è un argomento globale che anzitutto riguarda l'intera umanità e poi riguarda ogni singolo aspetto della nostra vita, della nostra quotidianità, quindi scendiamo in piazza, cominciamo a mordere, come dicevamo prima, ci davamo uno dei manifesti presenti nelle piazze francesi, ci trattano come dei cani, cominciamo a mordere, regà, cominciamo a mordere. Esatto. Cioè era un cartellone in Francia, portavano, dicevano i borghesi ci trattano come cani e allora cominciamo a mordere. Allora azzanniamo certo. come possiamo, in tutti i modi, utilizzando tutti gli strumenti e tutte anche i milioni di firme contro che ci sono state. Ci sono queste cose, e questa è un'altra occasione di reagire e non essere passivi a tutto questo che ci stanno propinando. Esatto. Noi siamo arrivati alla fine, sono le ore 13, stiamo cercando se riusciamo a sentire qualche compagno del Forte Prenestino che si sta festeggiando il primo maggio del non lavoro. Si vede che c'è un po' di confusione perché è molto partecipato questa iniziativa. E allora, visto che stiamo ricordando un po' gli appuntamenti, ricordiamo anche gli altri appuntamenti che ci sono oltre al Forte Prenestino in questa città per il primo maggio. Si festeggia anche al comitato al Quadraro, il comitato di lotta Quadraro promuove per tutta la giornata al pranzo al tramonto pizze e braci, siamo all'Orto Insorto, via degli Angeli 140, ma invece anche per chi voglia farsi una giornata un po' al sole con il mare davanti, c'è il primo maggio al Bilancione, all'ex faro di Fiumicino, al vecchio faro, scusate, di Fiumicino, insomma lì c'è una brace in corso, si sta, magari si può fare anche il bagno se il sole continua a reggere. Quindi ecco, principalmente tre gli appuntamenti a Roma per questo 1° maggio, e poi ovviamente questo presidio di Piazza Indipendenza, che a breve insomma si dovrà trasformare in un corteo. Eventualmente andremo a sentire nuovamente se succederà qualcosa, e dunque buon 1° maggio a tutti e tutte. Speriamo di riuscire a sentire un compagno del Prenestino in questi minuti. Vedo un po' subito, perché io passo direttamente a dare i saluti attraverso, ricordandovi. No, lo riprendiamo. Adesso vi ricordo una cosa essenziale, che non è che se va detto solo in chiusura, ma va detto in ogni momento. La radio ha bisogno di vivere, e la radio ha bisogno che qualcuno ci aiuta a finanziare questa cosa. È una radio che non è che ci abbiamo chissà quale costi esagerati, però dobbiamo pagarli, la luce, i telefoni. Ecco che ci abbiamo i compagni che stanno anche per finanziare la radio a Forte Prenestino questa mattina. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come va la giornata lì? Ma la giornata, diciamo, qui infatti, se volete evitare magari i pinoni, le file eccetera eccetera, magari sarebbe già ora forse di iniziare a muoversi verso il forte. Oggi è la 34esima festa del non lavoro qua al Forte Prenestino, oltre ad essere il 30esimo anno di occupazione e di autogestione del forte. Guardate, non vi so dire precisamente i programmi della giornata, perché non mi sono informato molto. A me piace comunque venire a prescindere, insomma, da quello che sono, perché certi le cose che ci saranno, che ci saranno sicuramente, magari ci sarà sicuramente il programma aggiornato, insomma, di tutta questa Scarfe, giornata. Ti sentiamo un po' male, quindi se riesci magari a metterti in una zona dove c'è più campo. Sì. Ecco, perché ora già meglio. Meglio, ok. Sì. Non so fino a dove sentiamo, comunque invitavo a dare un'occhiata magari al sito del Forte per il programma più preciso e più dettagliato della giornata. Comunque niente, siamo qui già da un po', noi in particolare con la radio stiamo facendo un bar che abbiamo ricominciato a fare quest'anno dopo un po' di tempo che non eravamo più riusciti a farlo per tutta una serie di motivi, praticamente a finanziamento della radio, ma insomma oltre a quello ci saranno come al solito insomma tutte le varie cose che potete trovare al Forte, quindi insomma sicuramente è una giornata importante anche per come dire mantenere un po' questa cosa di non andare in piazza 1° maggio con i sindacati. La festa del non lavoro nasce insomma tanti anni fa, quando ancora il 1° maggio a San Giovanni manco veniva fatto, è sempre stato così un appuntamento insomma per i compagni e le compagne per festeggiare comunque la festa del lavoro e del non lavoro in particolare, in una maniera insomma differente rispetto a quelle che sono le normali scelte insomma di chi tenta insomma di concertare e di portare comunque questo paese sempre dalla stessa parte. Insomma, so che ne avete parlato parecchio. Sì, esatto, non abbiamo parlato tanto. Poi, anche durante la trasmissione, quindi non aggiungo molto altro. Io mi sento di aggiungere anche un altro dettaglio, o meglio, non è una cosa molto grossa, la pubblicazione del libro dei 30 sì. anni del Forte Prenestino. Ieri ne avete parlato in radio. Abbiamo fatto una trasmissione, sì, con i compagni e le compagne del Forte che si sono diciamo occupati di fare questo lavoro, soprattutto di risistemazione, visto che comunque è un po' un lavoro di elaborazione collettiva in cui insomma il filologico e poi quello della narrazione dei vari compagni e compagne che hanno scritto magari una pagina, un paio di pagine a testa per essere inseriti all'interno di questo libro, quindi diciamo è un punto di vista veramente multifocale. La storia del Forte è anche questo, è anche molto eterogenea, molto basata su percorsi che si intrecciano e non sono insomma sicuramente lineari. Quello che è venuto fuori comunque è un libro molto interessante sia dal punto di vista del racconto sia dal punto di vista dell'emozionalità del racconto insomma di questi 30 anni di autogestione e occupazione. In più ci sono tutta una serie di materiali, di foto, manifesti, pezzi così descritti anche diciamo, dell'assemblea di gestione del sport su alcune tematiche specifiche, per esempio l'autogestione, l'antiproibizionismo, eccetera eccetera. Quindi insomma è un lavoro molto ampio, sono 450 pagine, sicuramente uno spaccato, ecco, importante della storia, insomma, di uno dei centri sociali di questa città, insomma. Quindi sicuramente è interessante comprarsi e dargli una letta. Bene, Scarfe, allora diamo appuntamento a tutti quanti lì a Forte Prenestino, ci sentiamo eventualmente se ci sono novità, pure anche da aspettiamo da Piazza dell'Indipendenza se arriva qualche notizia. Per adesso sono un piccolo drappello di persone che sta cercando di fare un corteo fino a sotto l'ambasciata turca. Ti salutiamo, ciao, e invitiamo tutti gli ascoltatori, approfittando chi va a Forte Prenestino, avvicinarsi al banchetto, al bar della radio, no? Bevendosi qualcosa, in questo modo aiuta la sottoscrizione, e magari lasciare anche un importo extra senza ricorrere ai numeri del conto corrente postale. Ci abbiamo pure le magliette stampate da poco, quindi ecco, si possono fare ottimi acquisti. Allora i numeri in ogni modo le diamo per chi può sottoscrivere, che è lo 61 80 40 01, conto corrente postale intestata Radio Onda Rossa, Via dei Voci 56 00 185 Roma. Si può sottoscrivere attraverso il sito www.ondarossa.if, aprire sostieni, lì c'è la possibilità di fare un bonifico a favore della radio, e si può anche attivare il bonifico che uno può pianificare automaticamente una trattenuta mensile ogni due mesi, ogni tre mesi, secondo le sue possibilità. Automaticamente danno l'autorizzazione alla banca a versare i soldi alla cosa. Oppure, come ha fatto Serafino, venire qui in radio, mettere i soldini in una bustina, nella cassetta delle sottoscrizioni, è tutto più facile. Questa non è solo una sottoscrizione, questo mi fa capire che ogni trasmissione si autofinanzia. Tutte le volte chi viene mette i soldi alle buste, perché se no noi a bolletta della luce non sapremo come pagarla, la manutenzione non sapremo come farla, e noi perciò chiediamo i soldi. Allora, a domenica prossima.